Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Oggi ho sentito 3 podcast di seguito della zanzara, più di 3 ore. Stasera torno a casa, chiamo mia moglie Parenzo ed è la volta buona che mi prende a calci in culo, mi sbatte fuori. Cruciani, le 2 di notte, la mia ragazza, tua scerrima nemica, ma alla fine anche lei lo dice. Siamo veramente al top! Tornò di notte in hotel e per caso mi ritrovo a guardare la mappa della città di Torino quando a un certo punto vedo una via, via Parenzo. Non pensavo che il comune facesse vie così di merda. La zanzara è ovunque, è ovunque. Niki Vendola, Niki Vendola. Lei una volta ha detto: mi piacerebbe adottare un figlio. È vero? Sì, mi piacerebbe molto avere un bambino. Mi piacciono molto i bambini, mi piace scrivere filastrocche. Ho sempre giocato con i bambini, con i miei nipoti, con gli altri bambini. Mi piacerebbe adottarlo perché, perché per me un figlio non è un fatto biologico, non è un fatto del sangue. Un figlio è crescere un figlio è l'amore che gli dai. Allora ragazzi, vi dico subito quello che penso sulla vicenda di Vendola, che è diventato papà nel weekend in California con l'utero in affitto. Io sono molto molto favorevole all'utero in affitto. Una donna può tranquillamente, secondo me, cedere il proprio utero in cambio di soldi. Una cosa che ho sempre detto, e certo non mi tiro indietro perché è diventato papà Vendola. Però c'è una piccola cosa da aggiungere. E tutto quello che ha fatto Vendola, leader di Sinistra Ecologia e Libertà, non so più come si chiama il suo partito, insomma leader storico dei comunisti italiani, quello che ha fatto in California è in totale contraddizione con quello che ha sempre pensato delle donne, del capitalismo, del liberismo. Cioè l'utero in affitto, se ci pensate bene, è la massima espressione del liberismo, anche la massima espressione del mondo capitalistico, in cui tutto si può comprare, basta avere il denaro per comprarlo. Io sono estremamente favorevole a una pratica del genere. Cioè, se una donna vuole cedere il proprio utero, che certamente è molto prezioso, in cambio di denaro, perché ha bisogno, può tranquillamente farlo. Ma io sono Giuseppe Cruciani, sono il conduttore di una trasmissione radiofonica e certamente ho delle idee molto molto diverse da quelle del signor Vendola. Il signor Vendola, che ha tutto il diritto di farlo e fa benissimo a farlo, lo ripeto, dovrebbe pensarla in maniera diametralmente opposta alla mia. Cioè dovrebbe considerare questa roba qui una pratica becera, una pratica che significa in qualche modo, no, utilizzare la donna come un prodotto, come una come un tramite per ottenere una merce, cioè a dire un bambino, per soddisfare un desiderio. Ecco, Vendola questo non lo può pensare, allora ci deve dire, beh, la penso in maniera completamente diversa rispetto a prima. A proposito, se ci capite qualcosa, vi faccio ascoltare una piccola frase di Vendola, una piccolissima frase di Vendola, credo che sia del 2013 o giù di lì, sì, 2013. E non è soltanto una lotta delle donne che vedono degradata la propria immagine, ridotto il proprio corpo a un orpello o a una specie di prosciutto a disposizione della voracità e del palato maschile, ma è un problema anche degli uomini che devono criticare ciò che resta in forme patetiche dell'antico primato del maschile, di questo patriarcato commerciale che prova in tutti i modi a riciclarsi. Ecco ragazzi, ma una frase del genere non è in contraddizione, certo si parlava d'altro, si parlava della donna, e dei diritti delle donne, del corpo della donna, del berlusconismo, tutte queste stronzate qui, ma insomma non è in contraddizione con quello che ha fatto Vendola adesso, dal suo punto di vista è una contraddizione spaventosa, una contraddizione totale. David? David! Il moderato parere di Sgarbi su Vendola. Non può essere un figlio, da alcuno non esce niente, quindi non so cosa sia. Il bambino diventa nient'altro che lo strumento di un capriccio di due che vogliono fare il padre e la madre. Dal culo non esce niente. Beh sì, Vittorio, io rido con te come un pazzo perché sei un genio in queste cose qui, in queste immagini. Dal culo non esce niente, d'accordo, però che c'entra? Quello l'ha fatto, non, cioè non lo può fare. È evidente che non lo può fare. Uno poi può prendere per il culo perché non lo può fare. Lo fa con l'utero in affitto, cioè pagando una donna. Al di là di quello che dicono, ci sono donne che non si fanno pagare, eccetera. Pagando una donna per mettere al mondo un figlio. Io lo considero normale. Vendola dovrebbe considerarlo un obbrobrio. Oh, insiste Sgarbi, è il loro figlio come un peluche. David, David, dove cazzo sei? Si capisce, perché dover mimare qualcosa che non corrisponde alla natura, e qualcuno quel figlio l'ha fatto, quindi di qualcuno quel figlio sarà. Se il padre legittimo lo abbandona, tu surroghi il padre, ma se il padre non lo abbandona, o se semplicemente una persona che tu ti sei costruito a tavolino, non so, che cos'è? È come un peluche insopportabile. La straordinaria presa per il culo di Crozza a uno chef vegano, ma diciamo la verità, a tutti i vegani in generale, a tutto il mondo vegano. Crozza è il cuoco vegano che non lava la lattuga, non lava la lattuga, soprattutto quando taglia la zucca, beh, un po' si sente in colpa, si sente colpevole perché la zucca può piangere. La mia è una cucina ayurvedica, sì, crudista. Ah, quindi lei non cuoce niente? No, no, non solo non cuocio, ma non lavo nemmeno gli alimenti. Non li lava? Per rispetto alla verdura, che non è detto che abbia voglia di farsi il bagno. Sì. Useremo la zucca, sì, per realizzare delle pseudo spaghetti. Innanzitutto, per prima cosa, sì, tagliamo la zucca. Attenzione. Ecco, come vedete, la zucca quando viene tagliata piange. La zucca piange? Sì, certo. Fa un po' di acquetta. No, no, no, non si è rispettoso. La zucca soffre come lei e me, sì, perché no, siamo parte di un tutto, le chieda scusa. Allora ragazzi, io pensavo che fosse un gioco di crozza, pensavo che fosse un'invenzione, pensavo che fosse una roba così. Poi mi hanno comunicato che su Gambero Rosso Channel, cioè sul canale televisivo del Gambero Rosso, esiste un cuoco che effettivamente dice, un tale che è vegano ovviamente, che si chiama Simone Salvini, e che anche in odore di omosessualità, mi dicono, forse, a meno dalla voce, non è un delitto grave, comunque non è una colpa. Essere vegani sì, può essere anche una colpa, forse anche omosessuale, però non c'entra, così ad arricchire, diciamo, il personaggio. Un tale Simone Salvini, che cazzo ridete voi là? Simone Salvini, la zucca sta piangendo, poverina, la zucca sta, cioè lo dice sul serio. Lo dice sul serio, la zucca sta piangendo. Ragazzi, io non ce la faccio più, mi devo confessare che veramente non ce la faccio più. Insieme alla storia del piccione, cioè pensare che qualcuno immagina che la zucca piange, però in fondo è più coerente lui di quelli che invece gli animalisti o i vegani che mangiano le verdure tranquillamente. Almeno lui pensa che anche le verdure hanno un'anima. Guarda, okay, la nostra zucca sta piangendo, poverina, vedi? Povera. Che l'abbiamo tagliata e lei si è ferita, e queste sono delle sostanze. È come se fosse la. Ma anche la cucina vegetale è crudele, allora. Sì. Non è, infatti, gli indiani, sai cosa. Non è priva di crudeltà, come. Sai cosa fanno gli indiani per ovviare a questo problema? Pregano. Ah, sì. E chiedono scusa. Chiedono scusa quando cucinano. Infatti, io che ho anche operato in dei templi hindu, in Oriente, in India in particolare. E mi ricordo che c'erano dei canti anche in cucina che servivano proprio per innalzare il cuore, per sentirsi anche in armonia con i vegetali. Serve anche a potenziare i prodotti, perché si potenzia l'acqua all'interno, no? Beh, tu lo sai. O era tutta un'invenzione, o era tutta una pantomima, oppure siamo veramente alla follia, eh? Cioè, pensare che le verdure possano soffrire quando le tagliamo, e dai, su. E andiamo alla vicenda Cracco. Allora, il solito Lorenzo Croce, che forse più tardi avremo qui per capire di che stiamo parlando. Caro David, conosci uno che si chiama Lorenzo Croce? Lorenzo Croce? No, mai sentito nominare. Allora, Lorenzo Croce è un signore che è il capo di una sedicente organizzazione animalista che si chiama AIDA, che ogni tanto, qualcuno dice, inventa delle notizie, fa scoppiare delle polemiche animaliste. Molto bravo, diciamo, da questo punto di vista, dal punto di vista mediatico. Adesso se l'è presa con Cracco, il famoso chef, più che chef ormai, diciamo, la star. Ah, certo, perché ha cucinato il piccione, certo. Sì, a parte che il piccione è buonissimo, è straordinario, un cibo straordinario, ma è anche una polemica sbagliata, perché il piccione si può allevare, non è affatto contro legge. Comunque sentiamo questo pezzo straordinario di Cracco, e non so di chi, anzi c'è anche Bastiani, c'è altri ancora, Masterchef, mentre decantano e giudicano la cucina del piccione. Bene, nome del piatto? Piccione a modo mio. Bollire il prezzemolo, gli ho insegnato i zingari a fare quello, dov'è? Beh, controlliamo il piccione, vediamo se è cotto bene, perché prima cosa ovviamente c'è la cottura della carne. Perfetta. Quanti anni in cucina ci vuole per cucinare un piccione a questo livello di perfezione? Più che quanti anni, quanti piccioni ci vogliono? Credo che almeno 500 piccioni servano. Un uccello al giorno ci sta. Un uccello al giorno toglie il medico di torno. Beh, a parte Bastianic che dice ma che hai cucinato, hai messo quella cosa lì come gli zingari, cioè roba che se l'avesse detta Salvini sarebbe stato accusato di razzismo, eh? Cioè cita gli zingari come quelli che cucinano, no, male, li cita, che mettono, li cita come grandi cuochi gourmet. Ma che, no? Cuochi gourmet, ma che cazzo dici? Ma vattene, che mettono le cose a cazzo di cane, così li ha citati. I chef stellati di Rom è nota. Vabbè, senti, aspetta un secondo, mettiti in una posizione migliore, perché dobbiamo intervistare una persona. Mettiti in un posto dove si sente bene. So che c'è là vicino dove sei, in questo posto segreto dove sei, che non è in realtà segreto, perché sei andato a fare un controllo, in una visita in ospedale. Là ci sono diverse cose, diverse corsie, diversi posti, che io conosco quell'ospedale, dove si sente perfettamente, perché fra poco incontriamo un signore che guadagna 11.000 euro al mese, ha accettato di venire qui dopo tutte le polemiche che ci sono state, perché dice che non arriva alla fine del mese con quei soldi, eccetera, eccetera. Quando sento il traffico divento pazzo! La Zanzara. We'll be right back. siamo finalmente con Vincenzo Vinciullo. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Come stai, Vincenzo? Sto bene. Com'era da giovane Cruciani? Parliamo da cose serie, visto che eravate compagnucci di merende. No, che compagnucci di merende? Sì, più no, non eravamo assolutamente compagni di merende. Anche perché noi le merende le facevamo da sole, ma in compagnia. Quante donne ti ha fregato Cruciani quando era giovanotto? Cruciani era il ragazzo brillante. No, beh, lo è rimasto. Te le ha trombate, praticamente tutte, te le ha fregate tutte. Questo ma è no! Poi lui era il bello della compagnia, Cruciani. Ecco, no, quindi appunto, non aveva rivali. Senti, caro Vincenzo, allora facciamo un po' di chiarezza. Quanto guadagni al mese? Allora, al mese la busta paga, comprensiva delle trasferte, dei viaggi e della tenuta della segreteria, dell'attività politica. Lordi, quant'è? Lordo è 11.000 esatti. 11.000 euro al mese. E netti quanti sarebbero? Sono 6.3. Con questi 6.3 sì. Io cosa devo pagare? Che devi pagare? Non è come un normale dipendente che alla fine del mese prende 2.000 euro e non ha spese. No, con queste 6.003 ci sono tutte le spese che devo sostenere, e cioè venire a Palermo, e tu sai che... Quanto costa? Spiegami, quanto costa venire a Palermo da Siracusa? A Palermo sono 600 chilometri. 600, dunque quante volte lo fai tu? Allora, per essere chiaro, io lo faccio due volte alla settimana. Cioè, quanti chilometri fai all'anno tu? Allora, io in genere all'anno faccio 96.000 chilometri. Minchia, e quanto ti costa sta roba? Allora, per essere chiaro, io faccio 8.000 chilometri al mese. Per essere chiaro, per 12 mesi stiamo parlando di 96.000 chilometri. Io avevo una macchina, una Mercedes, io ho programma che spendo 1.600-1.700 euro al mese. Poi andiamo a scalare, 1.600-1.700 per la macchina al mese, poi? Dopodiché abbiamo l'albergo. Non vado più nell'albergo, mi sono preso un monolocale, perché quattro giorni a settimana abito a Palermo. Quanto ti costa l'alloggio? L'alloggio, compreso la pulizia, al mese, il dominio, e sono 550. Stiamo parlando di un monolocale. Cioè non la reggia, dici tu, no, non la reggia. Cioè. Perché c'è la segreteria? E tutte le spese per la segreteria, significa la luce, significa il telefono, certo. Il condominio, significa la pulizia della segreteria. Anche insomma, alla fine fai fatica ad arrivare alla fine del mese, questo hai detto, no? Con questi 6.600, diciamola chiara, io arrivo con difficoltà alla fine del mese, questo hai ma detto. Ma perché in queste 6.600 ci sono tutti i costi? Se non sono attento... Sì. Non arriva a fine del mese. Se non stai... Ma anche perché le tue spese familiari sono notevoli, no? Io, a dire il vero, campo spesso sulle spalle di mia moglie. Ah, addirittura, tua moglie sulle spalle di tua moglie. Mia moglie fa la professoressa. Ti deve quasi mantenere tua moglie, diciamo. Mia moglie cura la gestione della casa. Io ho tre figli, una fra altre cose ce l'ho anche a Roma. Un sacco di spese, non c'è dubbio. Sono spese, dai, io lo so, spese, su. Cioè, in banca quanto hai? No, sono in rosso. Sei in rosso in banca? Però siccome sono una persona credibile e affidabile, la banca non mi dice nulla. Ma di quanto sei sotto, scusami? Non lo so, dovevo andare a vedere. Che ne so, 10.000, 20.000, 5.000, 50? No, saranno 2.500, 3.000 euro. Comunque sei sempre in rosso, fisso, diciamo, perché spendi tutto. Ma quando facevo lirica, sì. Cioè, guadagnavi più prima? Quando facevo il professore, sì. Sì, guadagnavi di più. Anche perché quando facevo il professore, tu ti ricordi, io facevo lezione privata. Per mantenerti, diciamo, no? Per aumentare, diciamo, il reddito. Facciamo chiarezza su un'altra cosa, la questione dei matrimoni, perché è molto interessante questa cosa. Allora, tu dici, ragazzi miei, io vado a fare i matrimoni. Per fare politica faccio i regali ai matrimoni. Cioè, tra le spese ci sono anche i regali ai matrimoni. Noi abbiamo anche delle spese di rappresentanza che i comuni mortali non hanno. Cioè? Tu dici, quali sono queste spese di rappresentanza? E quali sono? Guarda, un numero maggiore di matrimoni, di cresime, di battesimi, di lauree. Allora, compleanni, sono... compleanni non ce li metti? Anche compleanni. Scusa, ma perché un politico deve andare ai compleanni, alle cresime, ai battesimi, ai matrimoni? Spiegami. Sì, perché la gente ti invita. Beh, ho capito, perché ma... Premesso intanto che ho avuto 2.000 alunni, e capirai che di questi miei 2.000 ex alunni, parecchi si laureano. Cioè tu dici per fare politica e per prendere voti devi andare anche ai matrimoni. No, Giuseppe, non è che ti invitano chi non ti conosce, ti invita solo chi ti conosce, e chi ti conosce attiene alla tua presenza. Ma ho capito, però non è... Scusi, io ho fatto gli anni il 14 febbraio, Vinciullo, scusi. Io ho fatto gli anni il 14 febbraio. L'avevo invitata alla festa, Cruciani è testimone. L'hai dimenticato lei il 14 febbraio? No, io l'ho invitata, è il mio compleanno. Se lei mi avesse invitato, io non sarei venuto, così come non vado a nessun compleanno, ma le avrei fatto arrivare un regalino. E quello la prossima volta, se lo ricordi, sì, mi inviti. Sì. E io sarò presente. Ma ci mancherebbe altro. Comunque, diciamo la verità, cresime, compleanni, battesimi servono. Sì, vedi, sarebbe sminuire il significato dell'amicizia e dell'affetto. Perché evidentemente la gente ti invita sì. Perché ha affetto nei tuoi confronti e perché tiene alla tua amicizia. Cioè in Sicilia... Però perché con soldi pubblici? Non è che siamo come nel resto d'Italia. No, in Sicilia ancora abbiamo retaggi antichi. Vincenzo, la tua famiglia che dice di tutti questi sacrifici? Io ho allevato purtroppo 3 orfani, perché i miei figli hanno... la politica è una malattia, bisogna... per te è una malattia. Hanno capito in maniera... certo. Brutta l'assenza del proprio padre. Brutto. E fino a un mese fa mi hanno detto sempre: lascia, metti, torna a fare il professore, stai con noi, goditi bene. Da quando è successa questa cosa i miei figli mi dicono: vuoi a te se lasci? Anche perché i miei figli sanno quello che io faccio come lavoro e quanto loro hanno sofferto per il lavoro che io ho fatto. Vabbè. Quello che... Ma perché hanno sofferto? Spiegami, che è sta sofferenza? Pure tu soffri, mi sembra che pure tu soffri. Dici, viaggio come un pazzo, lavoro come un pazzo, loro soffrono, perché è una sofferenza continua. Cioè, sembra una cosa, sembra un disastro. No, c'è di peggio nella vita. Allora, te la posso dire una cosa. Bene, c'è di peggio quando il padre muore. Ma come muore? Un disoccupato, un operaio che lavora in fabbrica, c'è di peggio, no? Ma la sera torna a casa. La sera torna a casa. Cioè tu dici, alla fine la mia qualità della vita è peggio di quella di un operaio, dici? Allora, per essere chiaro, io i miei figli, quando li vedo? Caro Vincenzo, ti ringrazio molto per questa intervista, grazie. Abbiamo spiegato tutto, ciao, grazie. Ciao. Beh, ragazzi, sono problemi, io e i miei figli quando li vedo i miei figli facendo il consigliere regionale, effettivamente è un problema che tutti i consiglieri regionali, tutti i politici si pongono. È una grande sofferenza portare avanti questa vita con 11.000 euro lordi al mese, una famiglia in cui la moglie lavora e tutti i soldi finiscono rapidamente perché matrimoni, cresime, eccetera eccetera, e soprattutto non si riescono a vedere i figli. Una vita molto molto sacrificata. Siete due giornalisti oclocratici, parlate semplicemente alla pancia delle turbe. Il 12 marzo seguici in un mondo a 24 zampe. Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettano a Milano per Chiedimi se sono felice live, un evento esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia, con testimonianze di esperti e dimostrazioni di addestratori professionisti. Chiedimi se sono felice live, sabato 12 marzo alle 15, Palazzina Appiani, Arena Civica di Milano. Corri a iscriverti su radio24.it. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Vi presenta La Zanzara. Ok, siamo al top ragazzi, la zuppa piange e gli indiani pregano per chiedere scusa. Se vi piace un mondo così, va bene, niente da dire. Allora ragazzi, stanno cominciando ad arrivare un sacco di messaggi su quello che ha detto prima Vincenzo Vinciullo, consigliere regionale in Sicilia, 11.000 euro lordi al mese, e siccome ha un sacco di spese, la casa, la segreteria, i matrimoni, la politica, eccetera, eccetera. Se tutto va normalmente, ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese, ha i conti in rosso, è in rosso in banca, guadagnava di più quando faceva il professore a scuola, e poi soprattutto la grande sofferenza, il motivo quali sono le distanze, dorme a Palermo 2-3 giorni a settimana, il sacrificio per la politica, insomma ha cresciuto dei figli orfani. Senti un po', richiamate sto consigliere per favore, lo mandate a fanculo. Oh, datemi il numero di sto pirla che gli do la mia data di nascita, così quando è il mio compleanno mi fa regalo anche a me, ma va a fanculo, va. Ma possibile che di questi politici non muoia mai nessuno? A me già sentire la voce di Vinciulli mi verrebbe la voglia di farlo implodere. David, dove siamo cazzo qua. Sei? Dove cazzo sei? Siamo qua. Sei qui, sei lì. Vabbè, non diciamo dove, ma tanto si sa, ieri eri col telefonino lì in attesa. Ero col telefonino durante questa trasmissione fuori onda, ottima trasmissione peraltro, e niente, eravamo col telefonino in attesa che nel caso ti chiamasse la signora per annunciare che bisognava andare al parto. Sì, però amico mio, però ti devi spostare, che sennò veramente non si sente una mazza, cioè come se non esistessi. Sposta di un secondo, non succede nulla se oggi ti sposti. Stiamo facendo un controllino. Sì? Oggi stiamo facendo un controllino, siamo qui sulle barricate, pronti, non si può urlare perché qui altrimenti ti cacciano. Sì, perché, controllino. Piccolo controllino. Siamo in attesa. Certo che bisogna dire, per carità, non diciamo niente, per mille motivi non diciamo niente. Diciamo solo una cosa però, molto... Diciamo sì, ma mi senti adesso o no? Sì, ti sento, meglio. Cerca di parlare più forte, che ti frega se svegli qualche vecchio lì in ospedale, che cazzo te ne frega? Ho capito, ma gli ospedali... Dai un po' di zanzara in ospedale, vai dai vecchi, dici come state, che state crepando? Vai in qualche stanza e dici che succede, tutto bene, tutto a posto, qui la zanzara, passa il telefono a qualcuno, a qualche vecchio, così almeno... questo te lo posso raccontare, che è una cosa molto curiosa. Sì, dimmi, però parla bene, parla veloce, non si sente. Ecco, così è perfetto, parla attaccato. Sulla porta di questo telefono c'è scritto non disturbare e no comunione. Come no comunione? Non vogliono che passi il prete. Ma qui significa no comunione, perché è un ospedale ebraico quello? No, che ebraico, è un ospedale pubblico, normale. Un ospedale pubblico, qui significa no comunione, ma veramente c'è scritto no comunione? Sì. Questo è molto bello, però la cosa mi scalda il cuore, però no comunione, stiamo cominciando a diventare un paese civile, cioè non vogliono che entrino i preti negli ospedali pubblici, mi stai dando una gioia enorme. Poi mi dici che questo te lo fotografo e te lo mando, così tu lo puoi... Che vuol dire no comunione? Cioè, evidentemente passano a cazzo di cane la domenica a dare la comunione alle persone. Esatto, come passano dei preti, ecco, cioè che si passano dei preti, evidentemente non c'è scritto no comunione, ti assicuro, ti giuro, no comunione. Senti, però ti volevo sottoporre una questione, che è quella di una signora ebrea, non so se hai letto, di una gentile signora ebrea. Sì, è sulle LAL, come no? Si è incazzata e vuole fare causa alla compagnia ebraica israeliana, perché l'hanno fatta spostare, perché un rabbino ortodosso non vuole avere contatti con una donna, allora questa signora di 81 anni che ha fatto l'olocausto si è incazzata come una biscia, tra l'altro non capisco, si è spostata semplicemente di un posto, che ha subito, sembra una giostra, umiliata, sì. Ti sei spostata. Allora, ho capito, ma una signora laica, va benissimo, figurati quanto posso essere d'accordo con quell'ebreo ortodosso che non vuole la donna accanto a sé, quella è una follia che fa parte della religione, in questo caso della vostra religione, gli ortodossi sono così dappertutto, che non vogliono... Trattasi di follia, possiamo dire che è una follia che non vuole una donna accanto, che non può essere a contatto con una donna, possiamo dire che è una follia? No, non lo possiamo dire. Possiamo dire sicuramente che è una follia, perché che male fa a dire... In questo caso ha fatto male a una che è stata costretta a spostarsi. Adesso però la signora di 81 anni si è spostata di un posto, non è stata buttata giù dall'aereo, cioè non l'hanno soffocata. E che sarà mai? Vuole fare causa? Ma chi se ne frega? Sono stata... Ma sono stata umiliata. Ma umiliata di che, ragazzi? È stata spostata di un posto. Se non ti volevi spostare, non ti spostavi. Dicevi, no, io non mi sposto, si sposti questo rabbino maledetto. Dai, su. E invece si è spostata e ha detto, adesso guadagno e faccio causa. Ho capito, ma vuole fare 10.000 euro su una stronzata. Dai, su, cioè... Ragazzi, ma può esistere ancora gente al mondo che non si vuole sedere accanto a una donna? Cioè, ma vi pare una cosa normale? No, però no. Devi sapere la norma. Il fatto è che gli ortodossi possono star vicino soltanto alle loro mogli, anche alla loro moglie. Ho capito, ma è normale secondo te? È normale? È normale, non dà fastidio a nessuno. No, dà fastidio, in questa casa dà fastidio a una persona perché in aereo... Allora viaggia, e allora viaggia con un aereo privato. Viaggia con un aereo privato, fatti vai, che ne so, cioè, prenota 4 posti tutti per te, almeno 3 posti. Sì, tu sì, questo posso condividere. E dai, su, non puoi rompere il cazzo a quello, no? Fate spostare la donna, dai. No, questo lo condivido pienamente. Lo scazzo Pennacchi Salvini ieri sera fuori onda con Pennacchi scatenato contro Salvini, sentiamo. Quindi è il sistema anche Lombardia, che è tale quale, purtroppo, va bene. Agli altri sistemi del paese. Va bene, la Lombardia paese. È la patria di tutte le mafie, glielo dico così lei è contento. Detto questo, se qualcuno sbaglia, ma perché fa ste cazzo di battutine? Ma perché fa ste sanità lombarda? Ma vai a scuola prima di fare le battutine, no? Ma studia, santo Dio! Vabbè, si agita il signore col cappello in studio? È Antonio Pennacchi, il premio strega. Perché si agita il signore col cappello? Il signore senza cervello. Io sono tranquillo. La scuola l'ho fatta, ho fatto le elementari, ho fatto le medie, ho fatto anche il liceo classico, pensi un po'. Sapevo anche il latino e il greco, mi davano anche 7 ogni tanto, guarda un po'. E com'è che si è rovinata sta maniera, invece? Comunque la mia mamma mi ha insegnato che l'educazione prevede che ci si tolga il cappello quando sei in compagnia di qualcuno, però la mia mamma è indietro. La sua mamma l'avrebbe dovuta riempire le botte quando era piccolino, sarebbe stato un po' meglio. Addirittura, vabbè. Ma questo è intellettuale? Il metodo Montessori, cioè, questo è uno degli intellettuali che sono contro Salvini? Beh, certo, l'uomo di sinistra come Pennacchi, che poi sinistra, insomma. Quello, no, che si quello che si proclama comunista, che sostiene che bisogna dare un sacco di botte da ragazzino a Salvini. Ho visto due sculaccioni democratici, quelli come sempre con la sinistra, per l'educazione da bambini, qualche sculaccione sul sedere fanno benissimo, dai, su. Allora ragazzi, molta gente è incazzata per quello che ha detto Vinciullo, che non arriva alla fine del mese, eccetera, eccetera, però c'è un altro signore che è spuntato fuori, il nostro amico. È stato onesto alla fine in questa intervista, no? Sì, è stato onesto, sì, d'accordo, però comunque sempre 11.000 al mese, è sempre lamentele, non arrivo alla fine del mese, in rosso in banca, eccetera, eccetera. La vita di sacrificio perché i miei figli non riesco a vederli. Vabbè, ho capito, amico mio. Sembrava una cayenna, sembrava una sorta di no. I figli, addirittura ho cresciuto 3 orfani. Ma adesso mi sembra francamente un po' esagerato. 3 orfani, che orfani? Sei cresciuto professore a scuola, adesso fai il consigliere regionale, non mi pare la morte civile. Insomma, così per dire, no? Allora, c'è un altro che si chiama Potito Salat. Il signor Potito Salato, come no, ex eurodeputato, certo. No, come... ma senti innanzitutto, questo qua prende 7.000 euro al mese di vitalizio, di cui 5.100 dal Parlamento italiano, dal consiglio regionale, 1.100 dal Parlamento europeo e poi 810 da una pensione sua, eccetera eccetera. Senti, noi per esercitare questa funzione siamo stati eletti con campagne elettorali che non sono gratuite. Esercitare funzione di rappresentante istituzionale significa avere delle spese. L'ufficio, la segreteria, il telefono, l'omaggio ai matrimoni, alle gare fieristiche. Io impazzisco per questa cosa dell'omaggio ai matrimoni, cioè mi fa diventare pazzo che qualcuno inserisca, cioè, perché se uno spende soldi suoi, no, per andare a un matrimonio perché vuole fare campagna elettorale, va benissimo, ma che uno inserisca questa roba come spesa mi fa diventare pazzo. Cioè, con la spesa del matrimonio, mette nel conto il matrimonio come se fosse attività politica. Andare a un matrimonio! Ragazzi, Andrea da Bergamo. Sì, ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Mi fa proprio impazzire questa cosa qua, Cruciani. È noto una velata cultura mafiosa da parte di queste persone che vanno al matrimonio come politici, fanno il regalino per prendersi i voti. Cioè, è ora di finirla, ne abbiamo pieno le palle di questa gente. Basta, se vuole cambiare, non gli sta bene quel lavoro lì, ne faccio un altro, vado a fare il professore. La gente che va in trasferta e sta via mesi per guadagnarsi 2.000 euro al mese lordi, ma che cazzo stiamo dicendo? Ma io lo dico, ma proprio un paese, la tua rubrica è un paese di merda, ma veramente, con questa gente, è ora di finirla. E poi la cultura siciliana è proprio questa, di fare il regalino come a Parenzo, lo invitano, che non viene, ma ti fa il regalo, per capito. Sì, però Andrea, in quel caso abbiamo sentito un altro che non è siciliano, è la stessa cosa, eh? Salatto è uno del Lazio, uno che ha un bacino elettorale nel Lazio, è la stessa cosa. Cioè è concepire la politica come favore, cioè tu vai al matrimonio, ti faccio un regalino, così magari sei mio elettore, certo. Poi se se mi chiami magari ti trovo un posto di lavoro, o comunque piazzo un tuo parente, tutto così. Alessandro da Catania, dai Alessandro. Pronto? Dimmi Alessandro, dimmi. Ciao Cusciani. Allora io ti dico solo due cose. Io guadagno 1550 euro al mese, sto sì. una settimana fuori, sì. dal lunedì al sabato notte, sì. 25 euro di trasporto al giorno per mangiare, e questo qua mi dice a me che fa sacrifici. I miei figli io non li ho visti neanche nascere, perché è da 30 anni che faccio il camionista. Sì. E allora i sacrifici li facciamo quelli che sono in mezzo alla strada, che lavorano per 2000 euro al mese scarsi, e questo signore che è un mio paesano, diciamo, per chi è siciliano. Beh, l'avete portato voi, l'avete votato voi, per farlo eleggere al consiglio regionale. Questa è la prima volta che io lo sento, perché lo sconosco come nome, non lo so, è di Siracusa. Beh, è un consigliere regionale del nuovo centrodestra, ex Berlusconi. Scusa, ma con 11.000 euro lordi, che poi saranno 7-8.000 euro quelle che sono, 6.300. Non puoi arrivare a fine mese, carissimo. Ma dove stiamo andando, carissimo? Dove stiamo andando? No, poi vanno aggiunti anche i soldi della moglie che fa la professoressa. Bravo. Io lavoro a casa mia, lavoro io solo, i miei figli sono orfani davvero, perché quanto guadagno? Stipendio 1550, poi prendo altri 25 euro al giorno di trasferta. Quanti figli hai? Ora ce n'ho due, diciamo, due sono sposati. Ora me ne sono rimasti due, un po' più, un po'. Va bene, hai detto tutto, Alessandro, hai detto tutto, fermo lì. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere con gli... Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Cruz, siamo a South Kensington, Londra, tavolo di fianco, c'è Cecchi Paone, il ricchione, pieno di maschi, siamo al top, ora spendo 500 pound e mi ordino un Dom Perignon, ciao! Ma chi cazzo è questo qua che ordina il Dom Perignon a Londra? Certo che ragazzi non si può fare niente, che c'è grande occhio della Zanzara che vigila. E Cecchi Paone con un tavolo tutto di uomini in un ristorante a South Kensington, Chelsea, Londra, ristorante da super ricchi, e un ascoltatore che vuole comprarsi un Dom Perignon da 500 euro o sterline, non so. Allora, Parenzo in ospedale, in dolce attesa, Luca Telese con noi, collegato dalla stazione di Milano. Luca, ciao. Come stai? Senti, caro Luca. Certo, Parenzo si è sincronizzato con Vendola. Bravo. Si è sincronizzato con Vendola. Però, diciamo, non sappiamo il giorno della nascita di Vendola esattamente, a meno che non lo sappia tu, che sei molto intimo con il signor Vendola dal punto di vista, come dire, no, della conoscenza. Non parlo di un altro tipo di intimità, per carità. Non ci sarebbe nulla di male, ma credo che sia quello che abbiamo letto più o meno. Cioè, quando è nato sto bambino di Vendola? Che sia nato dunque sabato. Sabato. Però vi devo far ascoltare qualcosa prima, ragazzi. Lapo Elkan, qui siamo veramente al top assoluto, perché è un lapo al massimo della forma. Sentite. Lavoriamo sia sul B2B che sul B2C, generando sogni, creando sogni e costruendo sogni. Noi siamo generatori di sogni, creatori di sogni. Beh, B2B, tu sai che cos'è il B2B o il B2C, Luca? Non è una cosa oscena, vero? No, B2B e B2C è business to, non so, business to, ma che cazzo ne so. Siamo generatori di sogni. Senti quest'altra cosa, senti, questo è straordinario, perché il ristorante di Cracco, sai che sta facendo un ristorante con Cracco, quello attaccato per la storia dei piccioni, senti. sarà il ristorante di Carlo Cracco più democratico di tutti quelli che ha, perché sarà 50 euro 70 col vino. Io ho voluto renderlo anche accessibile e voglio che chi non può comprarsi le auto che facciamo o è un ragazzino che sogna le più belle automobili del mondo, voglio che lui possa vederle e voglio che lui possa venire con sua madre o suo padre. Non ho capito questa cosa del ristorante di Cracco più democratico. Cioè, 50 euro il ristorante democratico, 100 euro non è democratico, hai capito? No, no, tra i 50, no, tra i 50 e i 70 euro secondo, no, secondo 70 euro col vino è democratico, 100 euro senza vino non è democratico. No. Ma fermatelo, no, no, ma se... sto vino. No, ma con 20 euro di vino, ma ti compromettono il risultato. No, ma 70 euro democratico è stupendo. 70 euro sì, democratico. Ho voluto che fosse democratico alla portata di tutti. Non lo fai male, Lapo, però. Senti questa cosa qui, che ha creato una fondazione per il diritto alla felicità del popolo italiano. Non ce la posso fare, ragazzi. È meraviglioso, perché secondo me ci crede anche in quello che dice, capito? È una cosa che in questo momento della mia vita mi sta molto a cuore, che è la creazione e la costruzione della mia fondazione, che si chiama LAPS, Libera Accademia per Progetti Sperimentali, che intende operare solo sul territorio italiano e restituire alla collettività quel diritto alla felicità che sembra oramai dimenticato. Beh, ragazzi, se vi manca la felicità, tutti fermi, è in arrivo la Libera Accademia. È in arrivo la LAPS, Libera Accademia. Che cazzo era del progetto sociale? Che era? Fatemi risentire l'inizio di questo file, che non mi ricordo più. C'ho l'Alzheimer galoppante, mi discordo le cose dopo 30 secondi. Libera Accademia, perché se siete in attesa della felicità, se siete infelici e nella vita vi manca qualcosa, adesso arriva l'Accademia di Lapo. Una cosa che in questo momento della mia vita mi sta molto a cuore, sì, che è la creazione e la costruzione della mia fondazione, che si chiama LAPS, Libera Accademia per Progetti Sperimentali. Libera Accademia per Progetti Sperimentali, ragazzi, siamo veramente al top assoluto. Ma c'è Vendola, su cui molti vogliono intervenire, caro Parenzo. Andiamo a Paolo Ancona. Sì, Parenzo, un corno telese. Sì, lo so, hai ragione. Paolo D'Ancona, Parenzo è in ospedale e c'è una specie di divieto strettissimo di parlare di questa cosa. Ora puoi capire che io mi mordo la lingua, è evidente che mi mordo la lingua, no? Perché vorrei parlare, però non si può parlare, perché per vari motivi non si può parlare, perché bisogna essere anche un po' scaramantici. Dunque silenzio su questa vicenda, che però hai ragione tu, coincide con l'avvento del piccolo Vendola. L'avvento Non è in California, è a Roma. Ospedale pubblico, non si può dire niente, non si può pronunciare parola, perché c'è una specie di veto ebraico fortissimo su questa roba qui. Ebraico, in realtà non è ebraico, familiare fortissimo, una sorta di schermo protettivo. Però ebbene, le due cose coincidono: figlio di Vendola e terzo figlio di Parenzo. Sono due cose un po' diverse, però. Paolo. Ciao Pino. Vai, dimmi, Paolo. Niente, mi avete fatto prendere due Xanax, ho sentito Vinciulli, poi Lapo, io vi sento come antidepressivo e invece mi avete fatto prendere l'ansia. Che è successo? Che ansia devi mettere? Scusa. Niente, nel senso, volevo parlare di Nicky Vendola, prima detto. Però ti volevo drammatizzare un attimo, ti dicevo, ti volevo dire che il piccione di pieno è squisito. Quindi, il piccione di pieno è stupendo e gli animalisti non devono rompere i coglioni con questo piccione. Noi piccioni... Poi mia madre lo fa in una maniera splendida. Quindi... Vai Paolo, dimmi. Allora, niente, io non sono molto d'accordo con te, perché dici che è una cosa normale, una cosa naturale, andare a affittare un utero. Io so di essere in larga minoranza in Italia su questo. Minoranza, diciamo, nei sondaggi, poi bisogna vedere il paese, quello vero, se si dovesse votare una cosa, eccetera, eccetera. Tanto non si vota in Italia. Comunque, ti volevo dire, questo mi viene in mente di vedere Nicky Vendola che sfoglia un'agenzia immobiliare, dice: dove posso trovare un utero adesso? Un utero. Ma funziona così, funziona esattamente così. Un utero, dove lo trovo? C'è in però Africa, senza esagerare. Non è che si guardano gli uteri come se fosse come in una brochure, non esageriamo. Tu pensi che Nicky Vendola non ha visto un utero un po' più carino, un po' più bello? Cioè, un utero, intendi una donna, dici? Una donna. Eh, interessante. No, le donne si possono scegliere, certamente. Ci sono alcune cliniche in Ucraina, le abbiamo consultate, capito, anche noi. Io ancora nelle orecchie ero dall'altra parte della staccionata, che vedevo queste donne, l'utero è mio, lo gestisco io. Ma che vergogna, cioè, adesso di fronte a questi signori di sinistra che facevano queste battaglie, non ti pare un po' offensivo? Paolo, guarda, io penso che Bendola sia in enorme contraddizione con la sua storia. Però questo non mi porta a dire che ha fatto male. Voleva avere un figlio, ha fatto benissimo a farlo così. Perché io penso che l'utero si può affittare, cioè tranquillamente. Scusa, io se fosse vivo ancora Darwin, ancora io penso che avrebbe fatto un casino della Madonna. Adesso, a livello religioso non mi interessa niente. Vabbè. Però che un uomo abbia un desiderio materno, paterno con un altro uomo, mi pare un po' strano. Cosa ne dici? Ma non è desiderio paterno, è desiderio di avere un bambino. Io sono a favore Allora va in Colombia, in Bolivia, come ha fatto un mio dipendente, ha preso un mutuo per prendere due bambini che non sono tenuti lì allo stato proprio bestiale. Ma non è vero, non glieli fanno dare. Perché dite sciocchezze? Ma perché non è una sciocchezza? Ma infatti a due uomini non possono adottare. Quindi non diciamo sciocchezze, che non possono adottare, se no lo farebbero, e anche molto volentieri, te lo assicuro. Però scusami Luca, avere un figlio è questo, poi uno può discutere. Però scusami Luca, grazie Paolo. Ma l'unico modo è questo. Scusami Luca, però tu che conosci bene Vendola e tutto. Ma non tra è... l'altro l'abbiamo detto da tanto tempo. Consentite l'adozione degli orfani. Vabbè, ma lascia perdere l'adozione adesso. Bene, il punto è un altro. Ma non pensi che sia in contraddizione, come diceva anche l'ascoltatore, come dico io, con tutto quello che Bendola pensa, con tutto quello che ha pensato del rapporto le donne, eccetera, eccetera? Intanto, secondo me, no, perché Bendola, per esempio, nella disputa sulla legalizzazione della prostituzione, non ha mai avuto una intransigenza, cioè le donne non possono vendere il loro corpo, anzi, come sai, è favorevole. Quindi, casomai, il problema di contraddizione è fra tutti questi neocrociati che dicono il corpo della donna e poi sono favorevole alle puttane, alle marchette, a tutto. No, però, scusami, Bendola ha sempre... Quindi la donna non può vendersi mai o si può vendere no, sempre. No, però Bendola ha sempre pensato... insomma, l'utero in affitto è la massima espressione del liberismo, se vogliamo, è la massima espressione del mondo capitalistico dove si può comprare qualsiasi cosa con i soldi. Cioè, Bendola è l'opposto di questa roba qua, almeno a parole. Fino adesso è stato all'opposto di questa roba qua. Questo è abbastanza evidente. Io sono favorevole all'utero in affitto perché penso che una donna possa tranquillamente vendere il proprio utero se ne ha bisogno, o comunque affittarlo, il proprio utero, per mettere al mondo il bambino di qualcun altro. Io penso che sia normale, penso che sia una larga minoranza, ma se qualcuno si vuole fare ricco con il proprio utero non capisco qual è il problema. Però lo penso io, cioè, che sono di idee politiche completamente diverse da quelle di Bendola in teoria. Bendola, se pensa invece che ci sia sfruttamento, la donna, il corpo della donna, e poi fa l'utero in affitto, è una contraddizione o no? Ma ti sto spiegando che Vendola, se dobbiamo prendere la cosa più vicina, che è la prostituzione, è sempre stato favorevole. Vabbè, però tu vuoi sviare il problema. È non contrario alla prostituzione. Dopodiché la storia è piena di tate, di baglie, donne che hanno dato il latte. Ora la tecnologia consente... No, ma rispondi alla cosa. Vendola è in contraddizione o no? Su questa Secondo me no, perché lo conosco come una persona... Ma veramente... Ci sono interviste di 10 anni fa. Cioè la tecnica e i soldi sul corpo di una donna non è in contraddizione con tutto quello che Vendola ha pensato? Lo posso dire io che sono a favore dell'utero in affitto da una vita perché sono uno sporco cinico. Ma la tecnica e i soldi sono anche tu, ti consideri sporco e cinico. Però la tecnica e i soldi sono anche in un'operazione, anche in un appendicite ci sono la tecnica e i soldi. Vabbè, fermi tutti. Beh, amici miei, siamo al flop. La Zanzara. Allora, caro Telese, hai visto che non mi sbaglio? Sì, comparenzo in ospedale. Vabbè, non diciamo perché, ma tutti sanno perché. Tutti sanno perché. Ma lei ha appena detto. Beh, tutti sanno perché, ragazzi. È 2 mesi che giriamo intorno a sta storia, adesso non è che posso negare. È in ospedale con la sua compagna perché forse ci siamo. Che vi devo dire? Cioè, sai qual è l'altra cosa che mi diverte di queste argomentazioni antivendola veramente ridicole? Ma no, no, no. Quella questa è chi dice è andato all'estero e ha violato una legge italiana non può. L'ho letto molto questa cosa. No, ma quello, no? No, quello, vabbè, quello è un altro discorso. Però è che... una cazzata colossale. Vabbè, ragazzi, cioè, però che ci sia una contraddizione di vendola. In Germania e c'è il limite a 300 all'ora, non puoi andare a 120. Devi andare a 120 perché sei stato governatore? Ma no, ma oppure... quello lascia perdere quella roba là. È con noi Matteo Salvini, buonasera. Ciao Matteo, ciao, ciao, ciao. Buonasera, bisestile, 29 febbraio, 29. Che bello. C'è Telese, buonasera. C'è Telese, eccomi. C'è Telese. Viva Telese. Viva Telese, e abbasso auguri Parenzo. Auguri a Parenzo ancora non si possono fare, per carità, sennò qui ci becchiamo, no, gli improperi. Ho ieri sera in diretta, me l'ha detto in diretta. Cosa, ma guarda che incredibile. Sarà... Oggi non si può parlare di questa roba qui, quando ieri in televisione ha detto, guarda, c'ho il telefono, sono qui, sto aspettando. Tengo il telefono acceso, auguri in diretta. Oggi, mi raccomando, non si può dire niente perché siamo scaramantici. Vabbè, sono incazzato come una bestia su questa storia. Vabbè, comunque, vabbè, chi se ne frega, ognuno gestisce. Più che giustificata. Ognuno gestisce, ma no, non per l'assenza, figuriamoci, perché non si deve. Mi raccomando, non si parli troppo di questa, della storia della maternità, dell'ospedale, eccetera. Beh, ho capito, amico mio, ieri sera in televisione hai detto. Cioè... Vabbè, un po' di scaramanzia. Sì, per carità, quando, per carità, massimo quando rispetto. Quando Milan era Milan, mettevo sempre lo stesso paio di slip per andare a San Siro. Che cos'è che facevi, scusa? Oddio. No, cambiandoli e lavandoli, evidentemente. Ah, no, ecco. Ho parcheggiato a 2 chilometri da San Siro, a un benzinaio. Mi ero ripromesso che se avessimo vinto il derby, che poi abbiamo vinto, sarei andato a fare benzina da quel benzinaio a Baggio, in via delle Forze Armate, e poi mi è toccato andare 10 volte a far benzina da quel benzinaio. Vabbè, ma secondo me non le cambiavi le mutande. Lasciamo... No, dimmi la verità, tu per esempio, rispetto alle abitudini di pulizia, su cui ho molto parlato nei mesi scorsi qui alla radio, no? Abitudini di pulizia? Così, per esempio, io ho detto apertamente che non mi faccio la doccia una volta al giorno e che è sbagliato anche farsela. No, ma è vero, Matteo, è vero. Cioè, perché farsi la doccia una volta al giorno è una cosa negativa, a parte che io ho un rapporto con l'acqua un po' controverso, nel senso che spesso mi dà se io riesco me la faccio. Però capita che non te la fai una volta al giorno. Cioè, ci sono giorni in cui esci di casa alle 6 della mattina, rientri alle 2 di notte, non particolarmente voglioso di farti la doccia. Oh, ho trovato qualcuno che non si fa una doccia al giorno. Che non per così. Se ci riesco la faccio, se lavoro per 18 ore, magari a casa crollo. Beh, e in teoria, la faccio il giorno dopo. In teoria, come sai, dovrebbe essere appunto perché uno lavora 18 ore. Che cazzo è sto casino a Telese? Uno perché lavora 18 ore, allora dovrebbe farsi la doccia. Telese, tu che abitudini hai? Io doccia tutte le mattine, se no non riesco a carburare proprio. Mamma mia, ragazzi, ma tutte le mattine, guarda che ti fa male, Luca, cioè, guarda che ti fa veramente. Ma voi siamo che sei diventato pure ecocompatibile, che scarico troppa acqua, il sapone. Tanto non ci arriva l'acqua della mia doccia al villaggio africano. No. La faccio senza complessi di colpa e uso tanto sapone sintetico. No, ma questo ti fa questo ti fa onore, ma non è che io lo faccio per quello, non lo faccio proprio perché non me va, cioè non per risparmiare, proprio perché l'acqua addosso mi dà anche un po' di fastidio ogni tanto, cioè non è che mi rilassa come te. Se io devo svegliarmi col pensiero della doccia, vabbè, sono finito. E se ho tempo mi faccio il bagno, e se ho 20 minuti preferisco di gran lunga il bagno. Ma il bagno si spreca più acqua, si spreca più acqua col bagno. Ho capito, ragazzi, ho capito, il bagno ogni tanto. Senti, a proposito di Salvini con tutta l'agenda che c'ha, il bagno non lo può fare mai. No, domenica si potrà lavare i piedi con una doccetta e poi di corsa televisione. No. Sì, la prossima tappa sarà vedere un collegamento televisivo, naturalmente, Salvini in bagno dentro la vasca che si fa il bagno. No, ma anche sta cosa è curiosa, Salvini va in televisione, ma non è che mi autoinviti, se mi invitano è perché evidentemente ritengono che qualcosa di minimamente sensato ci sia da dire, altrimenti... Vabbè, ma è così, ragazzi. Allora, a proposito, però, volevo sapere una cosa da Salvini, poi andiamo su Vendola. Prego. Che è quella di Roma, perché, caro Telese, tu abiti a Roma, è un casino, non si sa chi si candida qui, perché Salvini ha fatto questa specie di consultazione con i gazebo, che non sono delle primarie, insomma, una specie di primarie tra quelli che andavano ai gazebo. Alla fine il più votato è Marchini, che è quello che non vuole la Meloni, che non si è voluta candidare, e hanno candidato Bertolaso prima con l'accordo di Salvini, poi Salvini si è reso conto che Bertolaso non è adeguato e allora ha fatto questa consultazione, un casino pazzesco. Ha mollato un bel bidone, Matteo, complimenti. A chi ha pensato? Prima gli ha detto sì, poi vabbè, ma quello ha detto delle cose, lo sappiamo. Mi piace Matteo perché si muove, è uomo di tecniche, capisci? avanzate, la posta del cavallo. Vabbè, ma al di là di questo, che abbiamo già, chi è il candidato a Roma? Non sopravvalutarmi, molto semplicemente. Sì, ma adesso che succede? Che secondo me il centrodestra, se vuole vincere, avere una proposta concreta, deve presentare un candidato e non cinque. Vabbè, e se il candidato non è in grado di sceglierlo solo la politica, che lo scelgano i cittadini romani. Vabbè, d'accordo, ma il candidato chi deve essere? Marchini, siccome ha vinto a questa No, no, guarda, ha preso qua, vado a memoria, 4.000 voti Marchini, poi la Pivetti, poi Storace, poi Bertolaso stesso, che non si era presentato, non aveva appoggiato, ha preso più di 2.000 consensi. E altri ne hanno presi... Vabbè, allora... La gente mi dice, con cinque candidati perdete sicuramente. No, tu hai detto addirittura che ormai hai detto che manco Gesù Bambino riuscirebbe a far vincere. Con cinque candidati, se dividi per cinque, è chiaro che non vai da nessuna parte. Quindi la mia proposta a tutti gli altri, con estrema umiltà, da non romano, è di far scegliere i cittadini romani. Cioè, tu dici, dopo questa specie di consultazione che abbiamo fatto, che Berlusconi... Era autogestita, non era ufficiale. Berlusconi ha detto, che è una buffonata, una specie di, non so, una pagliacciata, non so come la... 15.000 persone che, sfidando la pioggia, il blocco del traffico, gli assalti dei centri sociali, il lancio di uova, vanno a dare, secondo me non sono dei pagliacci. Quindi secondo me vale la pena di farle tutti insieme, chiedendo a tutti. E quando si possono fare? Quando si esce, io lo sostengo. Quando si possono fare, secondo te? Se lo vuoi fare prima di Pasqua, lo fai. In 15-20 giorni sono più che sufficienti. Giuseppe, ci stava spiegando, aveva detto sì a ma sì, ma questa già la, ma già sì, allora, ma non è roba avevo vecchia, dai, sì, ragazzi. Poi nell'arco di 4 giorni uno mi dice che i Rom sono vessati, e aveva sostenuto Rutelli, che voterebbe il PD. E qui, che là, che su e che giù, e allora punto, e facciamo scegliere i cittadini, visto che Salvini è brutto e cattivo, è razzista, fascista, eccetera, eccetera, che scelgano i cittadini che son migliori. Vabbè, ragazzi, però alla fine... Impeccabile. Sì, ho capito, d'accordo. Uno può dire pure che ha ragione lui, che Bertolaso non è adeguato, figuriamoci, con Bertolaso il centrodestra perde al 100%. Ma se i romani decidono Bertolaso, io sostengo Bertolaso, c'ho la scienza infusa io per decidere chi va bene e chi va male. Ho capito, ma se nessuno vuole fare ste primarie. Se spunta fuori di nuovo la Meloni, che pare che adesso è... Va benissimo! Cioè, ma è possibile questa cosa, secondo te? È romana, ministro, è segretario di... Di un movimento alleato. Cioè, allora diciamo una cosa: se la Meloni si candida, si può pure fare a meno di fare le primarie. Se la Meloni si candida e gli altri la sostengono, avanti dritti. Ma è possibile questa cosa, secondo te? Hai qualche notizia? Oppure... Ma io me lo auguro, lo spero. Ripeto, cioè, a questo punto l'unica soluzione per... Non è un'opinione, se tu presenti 4-5 candidati di centrodestra, no, ma chi ti ascolta ha le sue idee, ne vota uno, ne vota un altro... E vince Renzi. Cioè, a questo punto dici che l'unica soluzione per evitare le primarie è che la Meloni si candidi? O si ritirano tutti gli altri e ne rimane uno. Se si candidasse la Meloni, io sosterrei la Meloni. Fermi tutti, pubblicità. Ma che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? La Zanzara. Allora, ragazzi, prima di tornare da Salvini, mandiamo un po' di audio, Matteo, stai attento, Luca, stai attento. Farinetti, uno degli uomini più vicini a Renzi, dice che siamo nella merda e il futuro sarà peggio. Ho cercato di dirvi in maniera così banale e semplice perché siamo nella merda, perché mancano i posti di lavoro. Non c'è nessun altro motivo. E per farvi coraggio... Vi voglio dire che secondo me stiamo entrando in un periodo di 3-4 anni che saranno ancora più complicati del periodo 2009-2014. Una di centrodestra come Lara Comi, Forza Italia, critica Salvini dicendo che è un alleato inaffidabile. Quindi un cambio e una retromarcia da parte di Salvini per quanto riguarda Roma, mi spiace, ma implica che l'alleato è inaffidabile sia per Roma che per tutte le altre. Ma non erano insieme, non erano alleati? Fermi tutti. Berdone, Salvini a Roma, sentiamo. Salvini ha il gazebo per Roma. È perché Roma viene trattata come una mignotta, cioè la... Cioè, te la complici, non funziona sta cosa qua, non funziona. Bah. Roma trattata come una mignotta. Bah. Non so se hai visto, Luca, la tristezza della, dei candidati del Partito Democratico a Roma. Quella scena molto triste del candidato alle primarie. Il confronto del fair play. Mamma mia. Prego, senti, mamma. Senti questo Mascia. Depressione. No, senti Mascia che si è presentato con un orso. Sai, l'orso Mascia. Una roba penosa. Mascia si presenta col suo orso. Il mio orso, sì, perché io credo che... Cita i famosi cartoni animati, Mascia sì, e il suo orso. Diciamo sì, che la mia è una campagna un po' dadaista da questo punto di vista. Cioè, non ho capito, la campagna dadaista con l'orso, ma che cazzo è sta roba? Se il centrodestra è messo male, non è che il PD sta messo meglio a Roma, Vabbè, Salvini, ma hai sentito che dice la tua collega Comi al Parlamento Europeo, che sei totalmente inaffidabile? Ma sai che è quella che mi interessa di meno rispetto ai contributi che ho ascoltato? Vorrei dire, parto da Farinetti, che è un super renziano, però gli smonta tutto il mito che si è costruito di questa Italia che riparte, il lavoro, ha detto che saremo nella merda nei prossimi 3 o 4 anni, peggio che in passato, quindi telefonassero Renzi e Farinetti, purtroppo ha ragione, dico purtroppo, ha ragione Farinetti, maiuscola, ha ragione Farinetti. Però la Comi, perché dice che se la Comi, ma che simpatico, me ne farò una ragione, non posso stare simpatico a tutti. A Verdone che dice che sostanzialmente 15.000 suoi concittadini che portano delle loro idee gazebo sono dei mignottari. Cosa e che ne so, niente. Non devi rispondere, non è che c'è bisogno di rispondere per forza, cioè, no, si può anche non rispondere. Ma guarda, mi viene in mente, a me spiace, anche perché mi piace tantissimo come attore. La differenza con una certa sinistra la vedo a Bologna, ad esempio, dove ci sono questi violenti teppisti che vanno in classe a cercare i professori che dicono quello che a loro non piace. Questa è follia, secondo me, dovrebbero essere allontanati e sgomberati con le cattive maniere. Se a me non piace il libro di Pennacchi, per cui sono un cretino, non è che lo vado a cercare, non compro il libro, me ne faccio una ragione. Invece, purtroppo a sinistra ci sono troppi violenti che vengono tollerati quasi col sorriso sulle labbra, come se andare a beccare un professore in classe e costringerlo a essere scortato all'Università di Bologna sia normale. Non è normale andare in classe a cercare i professori con cui non sei d'accordo. Senti, Luca. Sì. Luca, ma lo sai che io credo che una delle mie... Io aspetto solo un momento. L'unica cosa che mi può dare soddisfazione nei prossimi mesi è vedere la vittoria... è la vittoria di Trump alle presidenziali in America. Numero uno. No, guarda, ragazzi, numero uno in assoluto. Guarda, io l'unica cosa che aspetto... Ma io da tempo che dico, figurati se mi fai citare la citazione di Mussolini, che peraltro non è manco di Mussolini, lo sai, no? È una frase di Mussolini che è stata... Di un militare italiano della prima guerra mondiale. Primo, secondo l'hanno detta in 100 milioni di persone. È vero che Trump ha ricordato, sì, è vero, lo sapevo che era di Mussolini, è una frase che mi piace, se ne fotte. Ma figurati, le ha trovato un ghostwriter. È caduto in un tranello. Ma io aspetto solo quello. Ma anche a Salvini piace Trump, viene giù il mondo. No, ma io aspetto solo quello. Ti preoccupo di Matteo, ti piaceva Trump. Lei si ascolta il GR di Radio 24, gli parla normale che in queste ore ci siano immigrati in rivolta che incendiano e bastonano e tirano i sassi in Francia e in Grecia? È normale Trump? No, perché lui pensa che Trump... Un limite all'immigrazione, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, significa tutelare il futuro dei nostri figli, altrimenti ci stiamo portando la bomba in casa. E allora prendiamo un pazzo col cappello a Napoleone. Ma perché è pazzo? Perché è un pazzo Trump, secondo te? È un pazzo? Secondo me Trump è uno svagato un po' folle, sì. Corre come un miliardario. Sì, però lo dicevano anche, a parte il fatto che lo appoggi Clint Eastwood e 2 o 3 persone, già mi sta simpatico. Lo appoggia anche Giselle Bündchen, che è la moglie di Tom Brady, un giocatore di football americano. Se l'appoggia Giselle, se l'appoggia Giselle, già siamo a posto. La moglie è qualcosa di fenomenale. Ma l'hai dato 2 motivazioni che non sono all'altezza della vostra fama. Adesso lo dico così, non è che perché l'appoggia Clint Eastwood lo appoggio pure io. Io dico semplicemente io sogno Trump alla Casa Bianca, semplicemente perché almeno cambia le carte in tavola. Ma la Clinton la possono votare tutti. Io voglio Trump alla Casa Bianca, l'unico motivo. Salvini, ma per chi tifiamo? Per chi tifi? Ah, io Trump tutta la vita. Trump, ma perché Matteo? Perché poi è brutto, sporco e cattivo lui. Ma guarda caso, La Le Pen è brutta e cattiva e primo partito in Francia. Gli austriaci neofrelati sono brutti e sono primi partiti in Francia. Wilders è brutto e primo partito in Olanda. Forse la gente chiede qualche regola, un po' di rispetto. Vabbè, ma al di là di questo, ma Trump perché ti piace Trump? Vabbè, ma non sa neanche un punto di programma, allora, perché la Le Pen ha una cultura politica. Perché secondo te ha un programma? Perché secondo te Trump ha un programma? Trump non ce l'ha, ma chi se ne frega ancora con i programmi state, cioè Trump sicuramente gli mettiamo la valigetta con i codici in mano a Trump, capisci? E beh, qual è il problema? Sicuramente il fatto che non dipenda per i finanziamenti dalle grandi banche, dalle grandi assicurazioni, dai finanzieri, dagli speculatori, ma ce li metta di tasca sua, cioè meglio Trump delle... è una garanzia in più, non deve dire grazie a nessuno, non deve fare favori e marchette a nessuno parlando di prostituzione. Senti una cosa, ma allora parliamo di Vendola, dai, è un criminale che va tenuto fuori dall'Italia secondo te? Ma no, ma adesso beh, come no, sì o no? Vendola adesso non è che... Ti vuoi fare gli auguri? Ma io faccio gli auguri al bambino. Vabbè, anche a Vendola, Vendola è diventato padre. No, a me non... Vendola secondo me è un egoista, punto. Non un criminale, è un egoista. Tutti, perché quindi tutti mi mette tristezza il fatto che uno parta da qua, spenda 150.000 euro, compri un ovulo da una parte, lo metta nell'utero di una donna affittata dall'altra e poi dica sono diventato papà. Questa è eugenetica, siamo tornati indietro ai 70 cioè, anni. C'è nazismo. Sono esperimenti contro ogni buon senso. C'è nazismo, secondo te? No, che il nazismo non c'è fortunatamente antipatia. È morto e sepolto, però questi Fra sono esperimenti che portano alla fine, secondo me è la fine. Se legittimiamo tutto... A me, sì, però, scusami. Queste 2000 donne che in questa clinica californiana, 2000 donne che spornano 2000 bambini senza madri ogni anno come una catena di montaggio, secondo me è la tristezza infinita. Cioè, tu dici eugenetica, però se tu pronunci la parola eugenetica, la pronunci come se fosse una cosa da orrore, come se fosse una roba da cancellare, come se fosse una roba da abolire. Sì, scegli, perché poi te lo scegli, le l'ovulo, se lo vuoi biondo, lo vuoi moro, lo vuoi bello, lo vuoi brutto, no, ma io qua siamo alla manipolazione di bimbi che vengono al mondo senza una mamma. No, ma io posso perché capire questa... Perché raccontare che la mamma si è presa $40,000, l'ha buttato fuori ed è sparita e arrivederci? Dunque, Vendola è un criminale. Non è un criminale. Beh, ho capito, però se tu dici... Lo pensi, lo pensi. L'ha fatto un certo di estremo egoismo, secondo me. Scusa, però se tu dici che fa eugenetica, se tu dici che c'è eugenetica, deve arrivare fino in fondo, devi dire allora... Quello è un ovulo, lo impianti in un utero di quella che dicevi tu, che poi firma un contratto e sparisce dalla vita di quello che sarebbe suo figlio, almeno quando nasce. Ma d'accordo, ma questo l'abbiamo detto. È una follia assoluta. Vorrei dirlo senza essere tacciato di essere... squadrista, ignorante, fascista, leghista. No, ma vai... Posso esprimere il pensiero che un bimbo avrebbe diritto ad avere una mamma? Benissimo. Che sia una mamma? Allora, se tu pensi che lui faccia esperimenti eugenetici... Non è un criminale, non voglio vendere la galera, capito. Chi se ne frega. No, ma che cos'è? Se uno toglie la mamma a un figlio, scusa, è un egoista. La legge statunitense glielo permette. Ma secondo me è sbagliata. Secondo me è sbagliata. Ma è un egoista, perché nessuno pensa al bambino. Ma può tornare in Italia o no? Parlava di prostituzione. Io la prostituzione la legalizzerei domani mattina, riaprendo le case chiuse, facendo pagare le tasse del prostitute. Ma non ci sono di mezzo i bambini, qua c'è di mezzo questo Tobia. Auguri di lunga e felice vita a Tobia, che non ha la mamma. Tobia ha diritto di conoscere la sua mamma. Scusa, Giuseppe, io mi ricordo che un anno ho incontrato Salvini a Isola Rossa, che stava sulla stessa spiaggia con Vendola. Dove? E credo che si conoscano. Vabbè. Ho incontrato a Isola Rossa, in un paese della Sardegna, credo che si conoscano, credo che Salvini non abbia l'immagine di Vendola come di un capo nazista, di un Mengel che seleziona la specie. Mengel. Ma gli ho dato del capo nazista, a parte il fatto che l'ho incontrato una volta in spiaggia e non ho più avuto la fortuna di incontrarlo, ma fa niente, sarà una persona squisita. Secondo me è un egoista. Lui e il suo compagno sono due egoisti ricchi, buon per loro, io non contesto la ricchezza. Però è anche... Perché tutti i genitori vogliono avere figli, allora sono egoisti. I genitori, lo dice la parola stessa, allora che possono generare, di solito sono mamma e papà, poi la famiglia può scoppiare, uno può divorziare, può andare bene, uno può morire, però... per carità di Dio. Ma quando una mamma e un papà decidono di provare a diventare mamma e papà, mettono al mondo un figlio. Quando due uomini comprano un ovulo, affittano un utero e portano a casa un figlio senza la mamma, sì, ho capito, però se tu un gesto di violenza. Però se tu dici che compie un gesto di violenza, che c'è eugenetica, che è una strappa il bambino alla mamma, eccetera eccetera, cioè voglio dire è il massimo dei crimini, è il massimo dei crimini. $40,000 e il figlio chi si è visto si è visto. No, può tornare in Italia sto bambino o no secondo te? Cioè può venire in Italia o no? Chiedetelo alla giustizia italiana, che tanto fanno sempre leggi per tutti. Scusa Matteo, dimmi, ma tu sei d'accordo con l'emendamento di Quagliariello che propone di togliere i figli ai gay? Di togliere, scusa? I figli, i lo figli... voteresti l'emendamento di Quagliariello che, seguendo il tuo ragionamento di ridarlo alle madri, propone di togliere i figli ai gay e restituirli alle madri naturali? No, se il figlio è lì, ripeto, secondo me parte in condizioni di sfortuna, però un abbraccio, un bacione a questo figlio, a questa figlia, non dovremmo permettere che si arrivasse a questo. Dovremmo impedire. Sei d'accordo con questo emendamento? Perché è più radicale, mi pare. Non va in California pieno. Va bene, se dici che è sottratto alla madre, a far fuori i bimbi come in catena di montaggio. Va bene, questo, ma questo l'abbiamo detto. Però se siccome in Parlamento, sì, ma non mi fai dare del criminale a vento. No, ma qualcuno propone, propone di togliere questo figlio a Quagliariello. La legge americana glielo permette. Vabbè, sì. Come farà a portarlo in Italia? Non ho capito. Chi è la mamma? No, il papà lo porta perché il padre biologico è il marito di marito, il compagno di Vendola. Spero che il bimbo cresca bene, anche se secondo me ha due non genitori egoisti. Ciao, a presto. Ciao. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. Donato, come stai, Donato? Donato da Varese. Grazie. Succede? Che succede, Donato? Dimmi. Cosa succede? È successo che. Che è successo? Lì c'è quello lì, come si chiama? D'Artagnani, mi sembra, in steuso. D'Artagnani. D'Artagnani è bello. Vai. D'Artagnani, hai fatto un complimento, però, Donato. D'Artagnani, sempre. Magro come D'Artagnani. D'Artagnani in miniatura. Ma quello che dico io, allora, per quanto riguarda quel porco di Vendola, no? Sì. Porco, mamma mia, per quanto riguarda Aspetta, quel porco di Vendola, ma ideologicamente, guardo, poi io li chiamo ricchioni, perché io fino a qualche anno fa pensavo che si chiamassero ricchioni, adesso li vanno a chiamare gay, sono allegri. Bene, vai, vomita, sono allegri. No, io non vomito, ascolta me. Che ti fa bene, vai, accendi anche una torta. Tranquillo, fermo un attimo, fermo. Accendere un po' di fuochi, vai, che ti aspetta, che Luca, bene. ferma. No, ma non lo può fare anche parlare per lui, perché poi che beh, cioè, che te vuoi dire? Allora, che Venda, quel porco di Vendola, sì. Come anche la Nannini, sì. Tutto porca, questo, pure lei, vai, tutti, vai. Come cioè, tutti questi malati mentali, cioè, hanno il sesso malato. Perché io sono sempre dell'idea che quando un uomo prende il cazzo, lo mette nel culo di un uomo e dice che bello, vabbè, è un uomo malato. Vabbè, malato, che c'entra quello malato? Ma perché non mi interessa un cazzo, io sono dell'idea che chi va a mettere il cazzo nel culo sporco di merda è malato. Ma io quello che voglio dire a questo... Quello che voglio dire a quel porco di Vendola, a quel porco. Perché questo porco di Vendola ha premeditato che dovesse avere un bambino e non una bambina? Perché sti larci ricchioni devono adoperare una povera disgraziata che l'avrà fatto per i soldi, no, mica l'ha fatto perché per spirito di liberalità, non so, per prestare il suo ventre al primo ricchione che passasse per la strada, no, sto per miserabile uomo, per perché Vendola è un miserabile uomo che non gli è mai servito un cazzo, come nemmeno quello che c'hai a fianco, che se fosse stato per me Berlusconi, a quello non gli avrei messo nemmeno la scopa in mano, a questi bastardi comunisti che comandano tutto, adesso anche l'utero delle donne, come, e vanno in magistratura, ci sono quei porci di magistrati che dovrebbero essere messi in galera, i magistrati dovrebbero essere messi in galera, la rivoluzione, andare a prendere con la collottola, macinarli, sì, voglio andare in galera, ma alcuni magistrati devono essere uccisi, vengono a prendere per quello che commettono. Ma chi? Quali magistrati uccisi devono essere? Anche quel porco magistrato, c'è stato quel povero uomo di 84 anni lì, a Genova, quel venditore ambulante che si faceva addirittura anche, come si chiama, la dialisi, gli hanno dato un cazzo di questo bastardo che c'ha a fianco a te, questo che ha fatto? No. Il genere di Berlinguer, il santone di merda Berlinguer. Ma che c'entra adesso Berlinguer? Io dico quello che dico per andare in, io voglio andare in galera, lo dico. No, però Donato, scusa, siamo dei finanziamenti pubblici. Ma siamo questo cornuto che è lì a fianco a te, lo dovrebbe dire. Ma parliamo del porco Donato, scusami, che c'entra adesso, scusa, sei passato da Vendola a io sono un uomo. È bello questa rabbia, questo rancore. Un milione di cose da rivendicare. Aspetta, aspetta. Un milione di conosci con tutta Sanremo, con tutto quella, quella ipocrisia. Adesso che c'entra Sanremo? Ma che c'entra Sanremo? Ma vai, Sanremo, perché anche non c'è sì. niente che va bene. Allora, io Donato. Il nome telefonico di Berlusconi. Che vuoi? Berlusconi mi deve vedere, mi deve mentire. Perché ti deve vedere, ti deve vedere. Anche a figlio questo sporco comunista. Ah, perché ha ingaggiato, perché ha ingaggiato. Perché Berlusconi si riempie di questi comunisti? Perché Berlusconi in quella rete di merda c'ha tutti questi comunisti figli di puttana. Non che non lo vado a dire, no, però Donato. È un modo di dire, è un modo di dire. Allora, no, è un modo di dire simpatico, carino, bravo. Prendere un maledetto porco maledetto che anche con i miei soldi è andata, è andata. Con i tuoi soldi a ricattare psicologicamente con il denaro. Aspetta, aspetta. Per avere un figlio, per avere un figlio. A me interessa. È tornato a Vendola, aspetta, è tornato a Vendola, aspetta. No, Donato, allora, Vendola, non ho capito, è andato con i soldi nostri, è andato, non ho capito. È andato in America ad operare calma. Due donne per avere un figlio, quel maledetto sporco che nella politica, nella politica sta come un preservativo bucato, se ne andò in pensione quattro mesi prima perché già si era preparata per fare la mamma, e questo merdone che hai a fianco, questo comunista capitalista che hai a fianco, che nella vita non ha mai lavorato, quattro ore in faccia, ma guarda che faccia da merda che ha, guardate che faccia da merda, ma che c'entra adesso, rotondo è. Ma è bellissimo, ma che c'entra questo, scusa Donato, adesso aspetami, entra tutto. È tutto sbagliato, tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Sì, ci sono pure gli UFO. Donato, se vogliono avere un figlio, fate una Scampia. Digli a quel porco di Vendola che se voleva un figlio andasse a Scampia da una madre che Vendola non sta nemmeno che cazzo dagli da mangiare. Donato. Avrebbe accarezzato quel figlio e gli avrebbe messo in tasca un 100 euro invece di fare la mamma, la finta mamma, il finto padre, perché dai, rimane dai. Sempre un deviato. Vai in giro a spaccare un po' di vetrine che ti. Oh, io non guardo, io non faccio parte della tua razza sporca che va appena che c'è un governo di viva destra razza, appena che c'è un governo razza. Di destra su a bruciare le piazze, dove sono quei vermi dei centri sociali, ma che c'entra adesso stanno questi doppi, aspettiamo che arrivi un governo di destra, aspettiamo che la RAI si imbottisca di persone di destra, ma che c'entra, che c'entra la RAI adesso, tutto sbagliato, tutto sbagliato, quel porco di faccia l'amico di questo verme che è a fianco, chi? Donato, e sono tutti parassiti, parassiti. Ma scusa, ma adesso che c'entra? Ma che lavoro fai? Vorrei dici, che Berlusconi Giuseppe, mi ascoltasse. Beh, aspetta, che lavoro fa? Adesso glielo dico, aspetta. Dici che lavoro fa? Aspetta, Donato, vuoi che Berlusconi ti ascolti per dire cosa, Berlusconi? Allora, aspetta. La smetta di tenere nelle sue reti tutta sta gente di merda di sinistra che lo hanno soltanto ucciso. Ucciso! Io avendo poco tempo, devo per forza. Beh, poco tempo, oltre ragionevole. Perché io non ho la fortuna di questa merda che c'ho a fianco a te, sto panzone, sto d'Artagnan, di ultima. Ma non lo mai, visto da quando. Io non mi trovo d'accordo su nulla quello che dice questo verme che è a fianco. Vabbè, quello lo sappiamo, questo l'abbiamo capito. È una sensazione reciproca, per fortuna. No, ma tu, guarda, uomo merda, tu a me non mi conosci. Io ti voglio che arrivi bene. Qualcuno ad aiutarti, furbo, così alla tua rabbia. Sei furbo come una puzzola. Vergogna, hai spinocchiato Berlusconi per farti dare il contratto. Ma come cazzo hai fatto ad andare lì a Matrix? Come cazzo hai fatto ad andare a Ma tu che lavoro fai? Tu che sei l'unico vergognati. Che lavoro fai? Ma a te non che lavoro fa? Faccio certamente un lavoro che sotto al piano hai mai lavorato in vita tua, pezzo di merda. Donato, che lavoro fai? Donato, che lavoro fai? Ti ha chiesto, che lavoro fai? Ma io non ho capito che lavoro fa. Ho sempre suonato. Hai suonato? Hai cantautore? No, sempre suonato. Hai suonato, ma come campi? Ma adesso, ho messo a parte un po' di soldi, attenzione, negli anni come li hai messi da parte? Ma non voglio parlare di questo, io non ho fatto ma no, io nessuno. Voglio, io sto parlando di un pezzo di merda che è lì a fianco, sei no? L'unico lavoratore. Adesso che c'è? Stiamo parlando di Vendola, della situazione di Vendola. Vendola già hai detto che vabbè, che quello che è, perché non doveva fare questa roba qua. Poi si è andato a parare su Telese, che sostiene... Ma sono tutti uguali! Fanno parte dello stesso marciume! Fanno, sono questi qua sono quelli che si sono divorati il paese! No, questi qua sono tutti ricchi! Questi porci moriranno tutti ricchi! Tutti ricchi! Non, io non conosco un uomo di sinistra che è morto povero, a meno che non sia stato defraudato da una puttana svedese! Sono tutti ricchi! Berlusconi deve strappare il contratto a questo posto! Ma adesso che c'entra? Cosa c'entra adesso? Scusami! Deve strappare deve darlo a un uomo di destra! Un uomo di destra, questa Italia è sempre stata di destra. Se poi il grande Mussolini ha parlato con le leggi razziali, ma l'antece, perché questo qui non è una forma di dittatura. Avete visto cosa ha fatto quel figlio di puttana di Renzi? Avete visto cosa ha fatto quella puttana? Addirittura ha cancellato un articolo per facilitare le banche. Il numero della tua casa questa merda di dire che Renzi è uno schifoso. E noi ti aiuteremo. Perché un servo è un lurido servo. Non ha il coraggio di dire che Renzi è uno schifoso. Ma che politica, ma non sai neanche le posizioni che sostengo. Ma guarda che Telese ha criticato Renzi un sacco di volte. Sì, però voglio Donato Fornisca. Il numero della corsia. Le medicine che prende fanno finta di stare in allora Donato e cerchiamo di aiutarlo perché c'ha bisogno. Donato. No, io sto cercando di aiutare te perché Berlusconi deve cancellare il contratto. Vabbè, abbiamo capito, Donato, ciao, sì, dai, sì. Ciao. Allora, ragazzi, andiamo a Luca da Trieste, dai, Luca. Pronto? Luca, dimmi. Ciao. Dimmi. Niente, io volevo parlare della maternità surrogata, nel senso che credo che il discorso sulla libertà di disporre del proprio corpo, su cui sono anche parzialmente d'accordo, però deve essere poi visto a 360 gradi, nel senso che a quel punto bisogna ammettere anche la prostituzione, bisogna ammettere anche il traffico di organi. Ragazzi, però sono cose diverse, dai, non possiamo confondere la prostituzione con il traffico di organi, con l'utero in affitto, sono cose diverse, dai, su, ma non possiamo confondere. Il traffico di organi, sì, ma dai, su. Vendere un rene. Ma se ti vuoi vendere un rene, te lo devi staccare, l'utero in affitto non c'entra niente, non è che ti stacchi una parte del corpo. E beh, per soldi fai 9 mesi di gravidanza, non è la stessa cosa che staccarsi un rene, ragazzi, non diciamo cazzate, dai, su. Ogni cosa è diversa, cioè adesso non è che se c'è l'utero in affitto ci sarà il traffico di organi. Uno può considerare turpe l'utero in affitto, io lo capisco, io lo considero normale, una pratica accettabile, cioè non è che mi batto perché ci sia in Italia, per carità, però capisco che ci sono alcuni paesi in cui ci sono delle donne, perché siccome esisterà sempre la povertà, esisterà sempre qualcuno più ricco e un altro meno ricco, quello meno ricco sfrutta tutto quello che è in suo possesso per diventare ricco, e se una donna, una famiglia vuole avere 40, 50 mila euro, 100 mila euro per, come dire, per migliorare definitivamente la propria vita, mettendo al mondo un figlio per qualcun altro, e c'è un paese che glielo consente, io questa cosa qui non la condanno. Luca, mi dispiace, ma non la condanno io questa cosa qua. Io non so tu se la condanni o no, io non la condanno. No, ma il discorso è questo. Luca, sai, Luca, aspetta. Luca Telese dice. No, aspetta. Ma io sto ancora pensando a questa follia. Ma l'hai spiegato bene tu, ma come si fa a paragonare una mutilazione da una generazione? Qua siamo, forse non avete, a scuola non vanno spiegato neanche come nascono i bambini, dai. Dai Luca, non puoi mettere che il prossimo passo sarà il traffico di organi, dai. La libertà dove si ferma? Cioè, nel momento in cui voi dite, io posso disporre del mio corpo, basta, penso che la vita sia l'unico limite, no? Chiaramente, se no, non ma posso tu dire, tu vuoi dire una cosa, siccome io dico, mi posso privare anche di un rene, no? Mi posso privare anche di un rene. Dove si ferma la libertà? Sì, questo è il discorso. D'accordo, privarsi del proprio rene è un po' diverso rispetto a mettere al mondo un figlio. È vero che uno volendo, il principio, cioè dobbiamo capire qual è il principio. Poi il principio qual è? Rispettare la vita. Tant'è che succede alcune volte che qualcuno... Tant'è che qualche volta succede... Lo puoi donare, esatto, certo. Lo posso donare. Allora il problema è la mercificazione di quella parte del mio corpo. Va è bene. Tutto lì il problema, una scelta etica. Andrea da Bologna, vai Andrea. Sì, buonasera. Volevo dire che a me sembra che la contraddizione, al di là di come la si pensa, soprattutto di Vendola, vera, è che io me lo ricordo bene, Vendola, ai tempi gloriosi della sinistra in piazza, al grido di se non ora quando, sì. Io me lo ricordo bene, mi ricordo gli argomenti che usavano. Sì, le donne oggetto. Le donne oggetto, sì. Le donne ridotte a merce. Ed è incredibile che nessuno noti e che tutta la sinistra adesso su questo tema, non manco un cane scende in piazza. Cioè il berlusconismo che riduceva per me non, la donna per me non bisognava scendere in piazza prima, non bisogna scendere in piazza adesso. No, no, ma infatti io sono d'accordo, ma sto rilevando la contraddizione di questa sinistra di moralisti con la faccia da culo, che ci hanno ammorbato per mesi spiegandoci che il berlusconismo riduceva la donna oggetto a corpo e poi se ne vanno all'estero a comprarsi l'utero in affitto. No, no, ma io penso che sia la contraddizione ci sia da questo punto di vista. Cioè, chi cioè, è innegabile. Cioè, Vendola ha sempre pensato delle cose sulla donna e adesso, in ogni caso, ha utilizzato del denaro per mettere al mondo un figlio, per comprare. Ma perché ancora pensiamo che il denaro sia sterco del demonio? No, ma a me lo dici, a me lo dici. E no, ma state facendo un quadro. Ma scusami, però, Luca, non puoi non notare. A Luca, che sembra comunque ragionevole, anche se te diverse dalle mie, la maggior parte di queste madri surrogate non sono delle femministe degli anni 70 o gli zoccoli, sono tutte madri cattoliche che credono alla vita così tanto che gli piace generare tanti bambini. Sembra strano, ma è così, le abbiamo intervistate. Non, vabbè, allora... non conoscere. No, ma mi fa morire dalla, questa idea che... sì, ma tu stai spostando l'attenzione. Tu stai, tu stai spostando. L'attenzione è sulla madre. Allora, no, ma anche su Vendola, anche sulla scelta di Vendola, scusami. Ma la scelta di Vendola è la scelta normale di una persona. Ma che uno che ha sempre pensato, ha sempre pensato che col denaro non si possa ottenere tutto. Ma non trovi una battuta di Vendola di questo tipo? Lo ma stai che stai dicendo? Ma non è vero, ma... Non è mai stato contro il denaro, ma siamo alla follia. Ma chi dai ha detto contro il denaro? Ma... Contro il fatto che si possa con i soldi ottenere una cosa del genere? Dai, su, Luca, non puoi... Ma quando l'ha detto? Dove l'ha detto? Se avete una citazione di questo tipo, vabbè, io sono contento. Scusa, un invece comunista, uno di di formazione comunista, di intervistarlo vabbè più volte, so che non è così. Vabbè, fermi là, fermi. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Come può uno non ascoltare La Zanzara? Cioè, è impossibile, è assurdo, è folle, è drammatico. Viva La Zanzara, sempre La Zanzara. Allora ragazzi, caro Telese, sai la cosa del piccione di Cracco, sì? C'è la polemica sul piccione, no? Quell'associazione animalista. Senti, senti da che cosa nasce tutto. Cracco, durante Masterchef, insieme agli altri, giudica una ricetta con il piccione. Così. In realtà poi ne dicono di tutti i colori là dentro, eh? Bene, nome del piatto? Piccione a modo mio. Bollire il prezzemolo, ha insegnato i zingari a fare quello. Dov'è? Beh, controlliamo il piccione, vediamo se è cotto bene, perché prima cosa ovviamente c'è la cottura della carne. Perfetta. Quanti anni in cucina ci vuole per cucinare un piccione a questo livello di perfezione? Più che quanti anni, quanti piccioni ci vogliono? Credo che almeno 500 piccioni servano. Un uccello al giorno ci sta. Un uccello al giorno toglie il medico di torno. A parte la battuta, un uccello al giorno toglie vabbè, il medico di torno. Siamo al bagaglino. E dei poi, poveri. E poi la cosa un po' razzista. No, un po' razzista di Bastiani, cioè dice il prezzemolo e gli zingari, vabbè, il piccione. C'è, in realtà ti voglio far ascoltare qualche altra cosa animalista degli ultimi giorni, mentre abbiamo già un ospite collegato, che è questa. Beh, non poteva mancare la mitica Celentano, la mitica Celentano. Ragazzi, quando parlo della Celentano, non so, mi emoziono un po' io, un po'. Mi emoziono un bravo po' per, no, mi emoziono perché rispetto. perché è un po' un debole, devo dire, un debole erotico, diciamo, sessuale nei confronti del signor Celentano. Il che non mi, come dire, sono cattivo lo stesso con la Celentano per quello che dice, però dice che dà dei fiori di Bach al suo chihuahua, dei fiori di Bach, senti, dei fiori di Bach. Quando io vado in aereo, caro dottor Vaira, che io ho molta paura a volare, anche se mi piace tanto, e supero la paura andando, da quando mi porto il chihuahuino, c'è gli attacchi di panico, vai in iperventilazione pure lui. Sì. Perché sei, cioè, te, siccome ti agiti, lo strizzi praticamente, no, così, ma lasciami stare. In realtà c'aveva paura già lui prima, mi hanno detto, ma perché non provi a dargli i fiori di Bach per calmarlo un po'? E quindi ho detto, ma perché, si possono usare anche per i cani? Ebbene sì. I fiori di Bach al cane. Ma chi ha denunciato, come ha denunciato prima Sgarbi, altre persone ancora, chi ha denunciato Cracco? Lorenzo Croce, che è il presidente dell'Associazione Italiana Difesa Animale e Ambiente. Buonasera Croce, buonasera. Oh, buonasera a voi. Come tutto stai? Bene? Come stai Croce? Io sto benissimo, sono un po' di cosa perché sto bollendo l'acqua. Scusa, secondo me alza l'acqua perché la pantegana ha fame, quindi sto preparando il cibo. Scusi, che cos'è che ha fame? Chi è che ha fame, scusi? La mia pantegana, gli stiamo preparando la pasta. No, ma che cos'hai? Dai da mangiare a una pantegana? È il mio terzo animale di casa. Cioè, tu hai come animale di casa, cioè, dimmi un po' gli animali che hai, scusami Lorenzo. Due gatti, di cui uno è qua che sta facendo fuso a manetta. Sì, poi? E la pantegana. La pantegana, cioè che vuol dire avere una pantegana? Spiegami. Non vuol dire, vuol dire avere un topo per casa, un topo che è stato sterilizzato, che è un... Ma scusa... Quale gatto, tanto quale un furetto. Cioè, tu stai. Come si chiama? Hai dato pure un nome a questa pantegana? Certo, si chiama Panti, c'ha due anni. Cioè, tu hai in casa due gatti che appartiene al mondo della normalità. Poi ha anche una pantegana, ma non se la mangiano i gatti? Ma è più facile che la pantegana se mangi i gatti, visto che pesa quasi 4 kg. Cioè, hai una pantegana di 4 kg a casa? Sì, un po' di meno, onestamente un po' di meno. Ma però... dorme, viene sul vostro letto, che ne so, fai bisogni? No, no. Alla sua lettiera, alla sua cuccia. Ma scusa, com'è com'è avere una pantegana? Di che colore è? Marroncino? Nera. Nera, una pantegana. Poi... Cioè, hai un topo in casa? Topo. Un ratto, un ratto. No, più ancora, proprio un topone. No, ma ragazzi, come cazzo? Ma Lorenzo, ma come fai ad avere un topo? Ma non è la è la cosa più bella del mondo. L'unica cosa, devo stare attento a non lasciare in giro i libri dei giornali, perché quelli se li magna. Ma per il resto. Vabbè, cioè... ma donato a piede libero, lui potrà avere pure un topo a casa. È bella la libertà, ognuno fa quello che vuole. Ma no, ma certo, per carità. Ma donato infatti... a piede libero, senza medicine stasera, tu capisci? No, ma il paragone può anche essere corretto. Però, ma che cosa gli dai da mangiare alla pantegana, Lorenzo? Scusami. Cibo che si dà ai topi, più due volte alla settimana la pasta. Cioè tu, ragazzi, io però... La io pasta aiuta, è fortifica. Cioè, ma quanto può crescere ancora sta pantegana a casa? No, è arrivata. È in età adulta, già avanzata. Due anni, campano di solito... Allora, ragazzi, 4, non mi stupisce perché Lorenzo Croce, cioè il presidente di un'associazione, almeno presunta associazione, perché molti sostengono che questa associazione non esista in realtà, questa AIDA, associazione di difesa. Beh, se i 13.000 soci che abbiamo non quanti? Esistono certificati. Quanti? 13.000, caro. 16... 13.000. Siamo presenti da Lampedusa a Treviso. C'è qualcuno che dice che tu prevede ti inventi ogni tanto le notizie per fare scalpore, ma il che non... Se hai anche beccato qualche querela, questo qualcuno, quindi vedi poi tu. Vabbè, ma voglio dire una cosa, tu per esempio consideri gli animali come gli uomini, cioè come gli esseri umani, identici? Non ho capito io. Tu consideri la tua pantegana uguale, che ne so, a Cruciani, a Telese, cioè è come un essere umano? No, un po' meglio. No, io classifico il gatto come un gatto, il gatto come un gatto, l'uomo come un uomo. Ho capito, ma sempre comunque degli esseri viventi e senzienti che hanno diritto. Esseri senzienti, la pantegana come un uomo, dai, su, non ci può. No, io non ti ho detto che è come un uomo, quello stai di tu. Vabbè, ma ho capito, come un uomo. Con gli stessi se tu vedessi che piedini che ha. I piedini. I piedini. È tenera. No, ragazzi, ma la pantegana è oscena, è schifosa. Sì, ma dovevamo parlare di Cracco o della pantegana? No, ma adesso arriviamo a Cracco, non ti preoccupare. Io non ho capito. Io non ho capito una cosa, Lorenzo. Ma tu perché pensi che Cracco abbia commesso un crimine? A parte che fare il piccione, si può tranquillamente mangiare il piccione in Italia. Cioè. Non è vero. Non si possono mangiare i piccioni in Italia? Sì, no. Di allevamento si possono mangiare, è pieno di ristoranti che fanno... Ma noi abbiamo forse parlato di piccioni di allevamento? Hai letto la denuncia? Sì, ho letto. Di piccioni d'allevamento? Ah, no, non l'hai detto perché altrimenti... Da qualche parte piccione d'allevamento? Ho capito, non l'hai detto perché altrimenti cadeva tutto. No, perché altrimenti non avrei fatto la denuncia. Appunto, ma che ne sai che quello... Allora, è chiaro che è di allevamento allora... quello là. E come fai tu a dirlo? Vabbè, ho capito, E se posso dire il contrario? E come fai a dire che è il contrario? Tu non ti preoccupare, diremo al giudice quando sarà il momento. Vabbè, ma adesso, ma perché vuoi far perdere tempo ai tribunali italiani, ingolfando i tribunali italiani con questa strada? Io faccio perdere tempo ai tribunali italiani. Forse tu non hai capito che in Italia ci sono delle leggi. Allora, le cose sono due. O le leggi si rispettano o le leggi non si fanno. Perché in Italia abbiamo una legge. Il piccione, che è un animale per me stupendo, è un animale protetto come fauna selvatica, odiato da mezzo mondo, amato dall'altro mezzo mondo, che non può essere ucciso, però gli puoi non dare da mangiare. Tu capisci che siamo alla follia. Quindi se stabilisca una volta per tutte se sto piccione è di fauna selvatica o non lo è. Cioè tu vuoi andare, vuoi fare, cioè, Telese, scusa, non so se hai capito bene. Ho capito, bene. È una battaglia per i diritti civili dei piccioni, ma in questo paese... No, ma vuole, può in realtà... accadere pure questo. No, ma vuole, in realtà, Croce, la perizia... È Luca Telese. Sì, che male t'ha fatto, sì. Nessuno, lo seguivo ai tempi, Bravo. No, però voglio dire... Ma è interessante questo... No, ma vuole, non solo vuole, vuole la perizia sul piccione di Cracco. Cioè, io non voglio nessuna perizia, non c'è bisogno di fare perizia. Ma quello è stato già mangiato. Gli psichiatri, lasciamoli fare gli psichiatri. Ma che vuoi fare allora? Come, l'esame del DNA, che facciamo? Ma allora, come facciamo a capire che tipo di piccione ha cucinato Cracco? Non ti preoccupare, esiste un sistema molto più semplice e molto più chiaro, dovresti conoscerlo. Però ti ripeto ancora, in Italia c'è sta una legge, Ma qual è il suo sistema per capire se quel piccione è di allevamento oppure... A fattura, che vuol dire a fattura? Se c'è la fattura. La fattura. Di acquisto. La fattura. Ma comunque per te, a prescindere da questa, ha commesso un crimine. A MasterChef hanno commesso un crimine. È anche istigato, cioè, ma non solo lui. Cioè anche, mettiamo che esiste la fattura, no? Esiste la fattura che hanno preso regolarmente. Nulla questo. Ah, se non esiste la fattura, secondo te, ma figuriamoci se MasterChef non si copre con la fattura. Ma io non, figuriamoci. Allora, ti ripeto ancora, in Italia la consuetudine, c'è un brutto vizio, che la legge è superata dalla consuetudine. Vogliamo per una volta vedere se questa consuetudine, a proposito di associazione che non esiste, vatti a vedere il pazzo del Brescia che sta a schiacciare i gatti col trattore, non esiste Aida che l'ha denunciato. Vatti a vedere a Brindisi, la mia presidente. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Che se salva 200 gatti all'anno mentre tu stai a chiacchierare. A proposito di associazione che non esiste, vai a Frosinone o vai a Roma a vedere la ragazza che abbiamo aiutato. Vabbè, a ma quello che c'entra, che ma quello adesso non mi fare. A proposito di associazione che non esiste. Vabbè, ma adesso non te la prendere su questa cosa qua. Dai, su. Non me la prendo perché sì, non me la sto a pigliare, mi sto a divertire con un pazzo. No, però, ma scusami, Lorenzo. Lorenzo, la pantegana come sta? Fammi sentire la pantegana. La pantegana della è tornata nella sua gabbia. Fammi sentire lo squittio della pantegana. Non risponde al rumorino della pantegana. Non esiste la pantegana. No, esiste. Ma poi facciamo... Voglio la fattura. Dove l'hai presa? Pure tu la pantegana non l'hai presa regolarmente. Come l'hai presa la pantegana? L'ha portata il gatto quando era piccola e se l'ha cresciuta. È una pantegana illegale. È illegale senza fattura. Fammi vedere la fattura. Ma della pantegana. Là di sotto che sento male. Chi è quello che Telese, portaci la fattura della pantegana. Quando vuoi, ti porto la fattura della pantegana, ti porto pure la fattura. Vabbè, ma allora, ma secondo te, MasterChef hanno fatto pure il coniglio a MasterChef? È un'associazione a delinquere? No, allora forse non hai capito il nesso di questa. Questa qui è un po' come la storia di Sgarbi, col quale andiamo a pascolare fra 15 giorni perché lui deve venire a pascolare. Ma figuriamoci se viene Sgarbi a pascolare. Ha promesso davanti a 4 milioni di italiani. Vabbè, allora mantiene la parola, cazzo suo. Però scusami il termine, voglio dire, su questo fatto, il fatto è molto semplice. Noi quello che vogliamo far risaltare è che in Italia la legge, c'è una direttiva europea e c'è una consuetudine che va contro la legge e la direttiva europea. E quale sarebbe questa legge? Legge qual è? È quella del 72. No, ma qual è? Che il piccione si mangia in un sacco di posti. Aspetta che ti faccio parlare con un tizio che produce piccioni. Paolo da Perugia. Paolo? No, non da Perugia, da Spoleto. Da Spoleto, bene, è uguale. Dai, non c'è, non... Beh, va bene. No, va bene, è giusto, guarda, da Spoleto. Guarda, Giuseppe, il problema è tutto qua. Devi dire al signor Croce di studiare la selvaggina allevata. Davanti a me passano circa il 30-35% di tutti i piccioni che vengono ammazzati in Italia. Ottimo. Tu lavori in una ditta che produce piccioni di allevamento. Esatto. E dove li dai sti piccioni? Ai ristoranti? Dove? Ovunque, tutte le catene di supermercato prendono i piccioni, i nostri piccioni. Quindi, cioè, come si può permettere il signor Croce veramente? Ma Croce fa casino perché fa casino, amico mio. Certo, grande pubblicità, tutti i siti, la sua associazione dappertutto, giornali, cose. Dai. Ma guarda Giuseppe, che io non avrei voluto intervenire in trasmissione. L'ho fatto solamente perché stamattina in amministrazione hanno subito le telefonate di due grandissime catene, di cui non faccio nome, che hanno rotto i coglioni, cioè? I coglioni, cioè che hanno fatto per la denuncia che ha fatto, cioè in che modo hanno rotto i coglioni, che vuol dire? Hanno telefonato e hanno detto: ma voi siete sicuri che i piccioni si possono ammazzare, eccetera, perché c'è una denuncia. Catene di che tipo? Di supermercati, dici? Parliamo di grandissime catene. E se, cioè tu ci stai dicendo che le grandi catene di distribuzione presenti nell'Italia si sono informate presso la vostra ditta a Spoleto sulla... Capito? Croce, ma lo senti che danni che produci? Ma è un coglione. No, sono ben felice, se meno piccioni ammazzano, più piccioni vivono, più gente viva sta... E più animali vivono. Che e cos'è, Paolo? Può trovare un altro lavoro, magari va. Ma perché dovrebbe trovarsi un altro lavoro? Ad aiutare allevamenti delle pantegane, visto che sta parlando di selvaggina selvatica, ed è lui che non sa di cosa sta parlando. Perché no, in Italia si è ripetuto una legge del 72. No, lasciamo perdere le leggi. E la fauna selvatica d'allevamento, no, caro, perché adesso è lui che non si deve permettere di insultare, perché non sa neanche con chi sta parlando. Io ho selvaggina allevata. Di chiunque viene. No, aspetti. Allevata. Io conosco meglio di lei che la normativa sulla selvaggina. Vabbè, selvatica. Non lascia perdere la normativa, Paolo. Ma non è selvaggina selvatica. Lorenzo, stai dicendo. Lorenzo, tu stai dicendo che l'azienda. Che la... cose ai cacciatori per andare a sparare è lo stesso, è sempre la stessa storia. Quella roba lì va abolita. Basta vivere sulla pelle degli animali. Basta, punto. Ma guarda, Giuseppe, posso? Dimmi, Paolo, dimmi. No, io dicevo che la cosa strana di questa vicenda è che io condivido almeno il 90% delle battaglie degli animalisti, però si devono basare su delle realtà di fatto normative, e qui Croce questa ha preso un gran enorme. Questa è una direttiva europea. Vabbè, ma lascia perdere. Ma dai, Lorenzo, stai dicendo che queste aziende... Stai a parlare con quello che è a Perugia, ha trovato 40 cavalli dal macello. Ma che c'entra? Ma che c'entra che hai salvato 40 cavalli? Ma che c'entra? Perché sembra quasi che uno sta a parlare perché è così, ha voglia di fare divertimento. Non stiamo a casseggiare, stiamo facendo una battaglia di civiltà. Ma tu vorresti abolire la cacciagione, d'accordo, ma quello che cazzo c'entra? No, io voglio abolire proprio addirittura ma quello che voglio io conta poco, non conta nulla. Io voglio che risalti che c'è una legislazione precisa, non solo una sentenza di corte di cassazione, non è vero, che conosco, Giuseppe, ma una legislazione. Paolo, dimmi. Giuseppe, ascolta, il nostro, cioè il mattatoio dove lavoro ha un bollino che si chiama bollino comunitario. Certo, ma è tutto regolare, ma è normale, certo. Riconosciuto dalla comunità europea. Tu immagina se una cosa non fosse possibile. Ma certo. Noi macelliamo solamente piccioni. Non è che macelliamo. Ma poi scusa, hai visto che ti ha detto, che devi trovarti un altro lavoro, Croce? Ma detto... va bene, ma me lo trovo. Guarda, Giuseppe, mi devi credere, quando la legge ci darà torto, io mi troverò un altro lavoro e magari aiuterò Croce nelle sue battaglie che condivido in massima parte. Però questa cosa ma qua in massima parte? Ma qua in massima parte che sei un massacratore di animali? Ma qua in massima parte che massacratore di animali? Massacratore di animali. È il mio lavoro. Come va? È un macellaio che difende gli animali, ma su via, ma di che parliamo, dai. Ma Croce, è il mio lavoro, come faccio? Senti, vabbè, ma pensa alla pantegana, Lorenzo. Ecco, lui pensa alla pantegana, io penso anche alla pantegana, dai, su. Ma vabbè, di che parliamo? Ragazzi, dobbiamo chiudere. Allora, Lorenzo, pensa alla pantegana un attimo, invece di pensare... Con rispetto parlando per il signore, ovviamente questa è una discussione... Rispetto parlando, hai detto che deve perdere il lavoro, ha detto cercarsi un altro lavoro. Ma che massacratore, ma smettila. Ha detto che è un massacratore, ha detto. Certo, è un massacratore. Però con grande rispetto. E chi lo condivide è altrettanto complice, certo che lo è. Ma uno che dice che deve essere, ma che è la centinaia di migliaia di piccioni, come lo chiami? Ma è uno che lavora con i piccioni, perché i piccioni sono fatti anche per mangiarceli. Sono fatti anche, ce li possiamo mangiare e sono anche buoni. E sono anche buoni. No, ma sono anche molto buoni. Sì? Buonissimi, ti assicuro. Tu pensa se esistesse qualcuno che mangiasse te? Se preferirebbe essere infilato in un mattatoio... Lo vedi che stai facendo un paragone tra... Vedi che stai mettendo sullo stesso piano un essere umano e un piccione? Gli animali sono come... Non lo sto mettendo sullo stesso piano, però sto dicendo che anche loro sono senzienti e non esiste il sistema io massacro i piccioni. Non esiste, dal mio punto di vista. I piccioni... I piccioni... Cos'è il bollino comunitario? Perché sono mica troppo convinto e sono contento che qualcuno ha chiamato per dire verifichiamo bene. Ma che verifichiamo? Non c'è niente da verificare. Ciao caro, ciao. A domani 18:30. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.